Antologia, inventario di cultura contemporanea, a cura di Mirella Fulvi, Carlo D'Amicis, Emanuele Pappalardo. All'ascolto di Antologia. Il primo numero del 1990 del nostro programma coincide con il suo secondo compleanno, almeno per la conformazione oramai abituale che ancora oggi potete riscontrare. E sono quindi prossimi alla ventina i ritratti dei grandi interpreti contemporanei della nostra cultura che abbiamo ricomposto. Ritratti, come saprete, mensili e ricostruiti in forma radiofonica, cioè con inserti d'archivio, con letture, con testimonianze e con contributi musicali. Inizia un nuovo anno, ma inizia naturalmente anche il mese di gennaio. Ed ecco quindi che un nuovo importante ospite si avvicina ai nostri microfoni per iniziare il racconto della sua vita, della sua attività e dei suoi interessi. Un racconto in quattro domeniche attraverso il quale, possiamo dirlo da subito, conosceremo più a fondo Diego Carpitella, ospite del mese, e le sue esperienze etnomusicologiche. Diego Carpitella sarà con noi fino alle 17:30 circa, ora in cui si aprirà lo spazio di antologia riservato alle rubriche e alle escursioni monografiche. Riascoltando le voci degli interpreti teatrali del Novecento attraverso la radio, potremo quest'oggi soffermarci sulla recitazione di Elena Zareschi. Dopo la breve pausa del giornale radio alle 19, tradizionale incontro con gli esordienti della narrativa italiana contemporanea. Per la rubrica Opere Prime, incontro quest'oggi con Severino Cesari, autore del volume Storie per quattro giornate, pubblicato da Sellerio. Un ascolto musicale completerà il programma di oggi. Ricordo infine che Antologia è un programma curato da Emanuele Pappalardo, che potrete ascoltare tra poco la conduzione del programma di oggi, Mirella Fulvi e Carlo D'Amicis in questo momento al microfono. Per la parte tecnica quest'oggi ci assiste Fabio Cardinali insieme a Francesco Ventura e per le letture sarà con noi Gianni Bersanetti. Ricordo infine per tutti coloro che abbiano il desiderio di scriverci, di comunicarci le proprie impressioni, che l'indirizzo di Antologia è appunto Antologia Rai Radio 3, seconda struttura, Viale Mazzini 14, 00195, Roma. Diego Carpitella è nato a Reggio Calabria nel 1925 ed ha compiuto gli studi letterari e musicali a Roma, dove si è laureato presso la facoltà di lettere e filosofia con una tesi in storia della musica. Dal 1952 si è dedicato alle ricerche etnomusicologiche, raccogliendo e registrando migliaia di documenti in gran parte delle regioni italiane, soprattutto quelle centro-meridionali e insulari. Ha collaborato a tutte le indagini interdisciplinari condotte con Ernesto De Martino nelle province meridionali tra il 1952 e il 1959. Nel 1954, con Alan Lomax, per la durata di un anno, compì una rilevazione tuttora unica nell'intera penisola, registrando circa 3.000 documenti. I suoi studi si sono indirizzati soprattutto sugli aspetti terapeutici degli esorcismi coreutico-musicali nell'area del Mediterraneo, tarantismo, argismo, confraternite musulmane, alla polivocalità della Sardegna, allo sciamanismo dell'Alta Amazzonia, alla espressività in ottava rima dell'Italia centrale e dai documenti di tradizione orale della comunità italiana emigrate nel Sud America. Si è anche occupato di problemi relativi al mito del primitivo nella musica moderna e contemporanea e alle questioni visuali della documentazione etnofonica. Tra le edizioni italiane curate da Carpitella ricordiamo nel 1955 gli scritti sulla musica popolare di Béla Bartók e nel 1965 La storia della danza di Kurt Sachs. I suoi interessi di ricercatore sono stati da sempre contrappuntati da una intensa attività didattica che lo vede attualmente professore ordinario presso l'Università di Roma La Sapienza della prima cattedra d'etnomusicologia istituita nel 1976. Diego Carpitella è inoltre presidente onorario della Società Italiana di Etnomusicologia, direttore dei seminari internazionali di etnomusicologia dell'Accademia Chigiana di Siena, presidente dell'Associazione Italiana di Cinematografia Scientifica e direttore della rivista Culture Musicali. Autore di numerosi saggi e direttore di diversi progetti di ricerca, Diego Carpitella è considerato uno dei protagonisti dell'etnomusicologia italiana e dell'antropologia visiva. Ecco, professore, la nostra breve e sintetica scheda con la quale di prassi cerchiamo di offrire agli ascoltatori una sommaria biografia del nostro ospite ci ha tratteggiato alcuni dei momenti salienti della intensa appunto attività di Carpitella, di Diego Carpitella, come studioso e ricercatore in quel campo di suoni che si situano al di fuori dell'esperienza musicale euroculta e che definiscono appunto l'area di ricerca che definiamo normalmente come etnomusicologica. Professore, io partirei proprio da qui, da questa definizione fin troppo empirica di etnomusicologia nell'ambito della tradizione demologica italiana, cercando di offrire una definizione forse più esaustiva di questa giovane disciplina di ricerca. Innanzitutto vorrei ringraziarmi di avermi invitato e direi che i compagni di scalata sono così illustri che sono lusingato e quindi vi ringrazio molto. So che anche che la vostra trasmissione è molto seguita. Quanto alla definizione di etnomusicologia, non soltanto in ambito italiano, che è una nomenclatura abbastanza recente, mi piace ricordare un intervento a un convegno che fece nel 1958, quindi 32 anni fa, Brai Loiu, che è stato un importante etnomusicologo rumeno, e partecipò a un convegno di musicologia e fece una sua relazione proprio su che cosa voleva essere l'etnomusicologia. La definizione, il presidente di questo convegno a un certo punto lo interruppe e disse: ma scusi, lei di che cosa si occupa? Non ho capito bene, si occupa anche di musica? Cioè era così vaga la definizione che era considerata l'occuparsi di musica di tradizione orale come un fatto complementare e artigiano, non come un fatto, diremmo, professionale di serie A. Naturalmente questo era un incidente che era capitato a un convegno. E in Italia la parola usata in questo senso di etnomusicologia si può dire che risalga alla prima metà degli anni 50, ma non è che poi fuori fosse molto usata, è subito dopo la guerra che fu usata in Francia e uno degli autori ne era stato anche Scheffner. Etnomusicologia, dicendolo rapidamente, tutto quello che riguarda la musica, tutta la musica al di fuori di quella euroculta occidentale, vale a dire la maggioranza della musica. E allora già questo pone dei problemi di aree geografiche, oppure pone un problema di interpretazione. Tutte le musiche non eurocolte occidentali sono delle musiche soprattutto di tradizione orale, quindi già questa è una prima definizione, appartengono al grande blocco delle musiche di tradizione orale, non soltanto popolari ma anche colte, cioè tutte le musiche dell'Oriente, giapponese, cinese, vietnamita, cambogiana, c'è una tradizione popolare e una tradizione colta, ma il fatto di essere di tradizione orale è molto importante perché dà delle caratteristiche formali che sono un po' diverse dalla scrittura. Allora, com'è nata questa disciplina? E quello che è divertente è che non è nata per merito di musicisti o di musicologi, per niente. Quelli che se ne sono accorti sono stati dei fisici acustici, degli psicologi, dei linguisti e degli psicologi. E la prima prova concreta della definizione di questa disciplina tra natura e cultura è nel momento in cui si ascoltavano le altezze, le frequenze di alcuni suoni più o meno catalogati secondo la concezione e la nomenclatura occidentali, un la, un si, un do, e si vedeva questi la, si e do non corrispondeva esattamente alle frequenze, però non erano delle stonature, cioè erano delle alterazioni sistematiche. In quel momento preciso tra natura e cultura si può dire che sia nata la definizione di etnomusicologia in Italia. Ma in Italia, quando uno parla ancora adesso, chi è stato uno dei primi che potremmo definire etnomusicologi? Ma furono due siciliani. Ferrara? Adesso, sì, professore, io la interrompo qui perché su questo argomento e su proprio le origini della etnomusicologia, degli studi demologici in Italia, arriveremo fra poco cercando di essere esaustivi. Adesso invece cercherei di tornare un po' indietro e di vedere come nasce Diego Carpitella, cioè quali Diego Carpitella abbiamo ricordato che nasce appunto a Reggio Calabria anagraficamente nel 24, ma a Reggio Calabria ha continuato a vivere per circa 13 anni. Ecco, come ricorda Reggio Calabria di quel periodo? Guardi, è una domanda un po' complesso rispondere, e naturalmente è chiaro che mi sono preparato, perché non volevo essere un improvvisatore, però mi accorgo che è molto difficile trovare una linea di coerenza, non so se capita, forse no, tutti fanno trovare un filo, un tracciato della propria esistenza, ma se dovessi fare un tracciato della mia esistenza, da quando sono stato nato, fino a 13 anni sono stato a Reggio Calabria e poi fino ai 18, mi riesce molto difficile, sono spesso dei sentieri che non hanno un nesso tra di loro in cui c'è anche un margine di fortissima casualità. Per esempio, quando io mi ricordo di Reggio Calabria ragazzino, ho un'immagine come di una guarnigione militare che si trova nei romanzi russi, una certa monotonia, cupaggine, questa è la mia immagine, mio padre era ufficiale e quindi vivevo in questo ambiente. E quello che mi è rimasto sempre molto impresso era questa forte differenza di classi e di livelli sociali. Direi che le immagini che mi hanno perseguitato per tutta l'esistenza erano il comandante del reggimento, il vescovo, il prefetto. Dico, queste erano le persone, poi cioè, si stendeva tutto un tessuto di forte caratterizzazione sociale. E dice, ma che importanza ho? No, ho avuto sempre questo senso di un monotono piramidismo e questa per esempio è un'impronta della mia vita. Però poi ho un ricordo del mare, per cui quando ho letto molte pagine del mio amico D'Arrigo su Orcinus Orca ho rivissuto in pieno questo mare adolescenziale e anche questo sud, perché andavo sempre in questa isoletta lontana che è Pantelleria, dove era nata mia madre, e lì è stata una scoperta della natura. Guardando, mi ricordo col binocolo, la Tunisia, è stato un posto di sogno, di scoperta della natura. Da un punto di vista musicale direi che ci sono delle cose abbastanza discontinue e disordinate. Ci ho cominciato per esempio ho studiato il pianoforte come può studiare un ragazzino in provincia, e facendo i soliti saggi, eccetera, eccetera. E poi quando sono venuto a Roma la discontinuità è continuata lo stesso, non è continuata. C'è stato un periodo, forse tra i 15 e i 18 anni, in cui ho fatto moltissimo sport. Facevo anche il volo a vela, poi mi sono ritrovato anche a un anno di accademia militare con mezzo biennio di ingegneria. Quindi diversi sentieri della mia vita in cui c'era la costanza di studiare la musica, però c'era una improvvisazione del vivere. Direi che il punto di partenza è cominciato un po' quando, anche se non sono stato un grande frequentatore, non dovrei forse dichiararlo, nel periodo dell'università, e allora mi sono più indirizzato verso interessi musicali, infatti feci una tesi qui a Roma, con Ronga qui a Roma sul realismo di Mussorgsky. Una tesi estremamente discutibile a distanza, che dico la verità non incontrava neanche molti favori dello stesso Ronga, e discutibile direi per una cosa, perché non sapevo il russo. C'è il mio omonimo Alberto Carpitella, che invece è un noto slavista, ma io invece il russo lo conoscevo ed era fatto soltanto su elementi musicali, badando al realismo, ma questo era dovuto a ragioni ideologiche, il problema del realismo in musica. È stato poi naturalmente tra il 47 e il 50 ho intensificato i miei studi musicali, armonia, contrappunto, composizione, eccetera. Anzi, c'è stato anche un momento che frequentai i seminari di Salisburgo e anche c'è stato un periodo che mi sono dedicato anche alla composizione. E poi però i miei interessi si sono avviati in due interessi fortemente convergenti. Cioè, da una parte un certo tipo di musiche della tradizione europea, diciamo pure le musiche vagamente di tradizioni nazionali, ma Mussorgsky in particolare. Contemporaneamente ho avuto una cotta, come si dice, per Bartok, stralunante. Ecco, appunto, negli anni, credo appunto negli anni di studio, credo che sia un'esperienza che appartiene a ognuno di noi, in questi anni, in questo periodo, in questi periodi, ognuno è portato appunto ad assumere dei modelli, cui ispirarsi, dei maestri da cui imparare. Ecco, potremmo appunto identificare nei suoi maestri due figure importanti, Bartok, che ha giustamente nominato De Martino. Cioè, c'è stata una convergenza in cui i miei interessi per Bartok, incontrai De Martino che aveva appena ereditato la collana viola dei Einaudi da Cesare Pavese, e io ho detto desidererei curare un'edizione italiana degli scritti di Bartok, e lui mi disse certo, facciamolo subito. A questo si aggiunse tutta la problematica della nuova questione meridionale posta anche ai tempi di De Martino, ma soprattutto sulla scia dei suggerimenti di Carlo Levi. Ecco, fermiamoci un attimo su Bartok. Su De Martino avremo modo di soffermarci a lungo più avanti, più in là in questa puntata e soprattutto nel prossimo incontro che avremo con Diego Carpitella. Quindi fermiamoci su Bartok, che è forse stato il primo compositore nella storia della musica europea, nella cui arte, nel cui modo di far musica, di operare, vi è un'autentica sintesi tra principi orientali, europei, occidentali, e la musica orientale, in un, potremmo dire, rispetto appunto della propria concezione del mondo e della personale tecnica compositiva. Tra l'altro è molto significativa in quest'ottica di fusione e di unitarietà, appunto, tutta la prassi e il modo di far musica di Bartok. In Bartok, appunto, le esperienze orientali informano e influenzarono tutta la sua opera. Anche Puccini, ovviamente, o Debussy sfruttarono molto la conoscenza della musica dell'Estremo Oriente, però l'effetto della cultura orientale sul loro modo di far musica non fu così decisivo. Ovviamente anche in Bartok si possono riscontrare passaggi tipicamente coloristici, ma nella sua musica gli elementi orientali divengono una parte strutturale e omogenea del suo linguaggio musicale. Ecco, potremmo sintetizzare, professore, la figura di Bartok, il modo di far musica di Bartok, la tecnica compositiva, come un qualcosa in cui Oriente e Occidente, popolare e colto, convivono sempre. Sì, Bartok in questo senso è una figura esemplare, e direi che in certi versi è uno, se si potesse dire, uno strutturalista ante litteram. Vorrei soltanto, per quello che mi riguarda autobiograficamente, dire che esiste una continuità tra quel Mussorgsky, ecco, così, di una tesi di laurea, e Bartok. Mussorgsky, come è noto, costruiva, inventava le sue melodie secondo schemi di una musicalità russa, intesa anche come aspetti di una fonologia, di una fonetica del parlato, e quindi della fonosfera del parlare e del poi l'intonare. E quindi spesso temi originali russi, Mussorgsky, non si trovano, però si trovano tutti i temi inventati da lui, che poi sono secondo i criteri della tradizione russa. Bartok fa anche così, ma in maniera più filologica. Cioè anche lui in certi punti inventa, senza prendere così immediatamente una melodia, però inventa con tutte le strutture che sono tipiche del linguaggio della musica contadina, non soltanto ungherese ma anche balcanica. E in questo è interessante questa fusione tra il filologo e l'artista. Per certe cose non so perché mi ricorda Borges, ma comunque del filologo dell'artista, nel senso che lui è andato poche volte, come si dice ormai nel lessico dell'antropologia, sul terreno. Andò sostanzialmente per tre anni e in maniera anche così saltuaria. Poi ci riandò negli anni 30, ma quello che raccolse in quel momento entrò profondamente dentro alle sue radici e fu determinante, tant'è vero che come filologo è interessante notare che Bartok andò raccogliendo con un fonografo Edison insieme a Kodály, andò raccogliendo delle melodie che poi trascrisse e che poi ha ritrascritto per tre volte fino agli anni 30, perfezionando sempre di più questa trascrizione, ponendo anche il problema fino a che punto il pentagramma della tradizione eurocolto occidentale possa rappresentare questi suoni di tradizione orale. Quindi il tutto poi si ripercuote nelle strutture profonde della musica di Bartok, sicché Bartok non è un musicista folcloristico, è una cosa molto più, la definizione è molto più complessa. Poi c'è invece, non è certamente un musicista citazionale, cioè uno che cita un tema e poi lo inquadra dentro ad una sua tessitura, è un caso molto molto molto particolare. E questo fu naturalmente un esempio così affascinante, e nei suoi scritti trapelavano veramente tutta questa problematica. Alcune cose da un punto di vista filologico, etnomusicologico, magari sono un po', alcune un momentino da mettere a fuoco, ma la sostanza è valida. A questo, ripeto, fu un incontro con De Martino dovuto a questa pubblicazione della collana Viola, sì, di Einaudi, e in quel momento esplodeva in Italia, prendeva corpo in maniera diversa alcuni aspetti, se vogliamo dire, ma antropologici della questione meridionale, sulla scia, nel caso di De Martino, del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Sotto certi versi, gli inizi di alcune riflessioni di De Martino partono dalla lettura di Carlo Levi. E quando nel settembre del 1952 facemmo un primo viaggio in Lucania, facemmo un itinerario che era in parte nel Materano quello che aveva fatto Carlo Levi. Fermiamoci un attimo su Bartok, e quindi sulla sua sintesi tra Oriente e Occidente, tra due culture che nella sua musica convivono perfettamente e in equilibrio. Fermiamoci su Bartok con un ascolto musicale. Ascoltiamo l'ultimo movimento da Contrasti per violino, clarinetto e pianoforte, un lavoro che Bartok scrisse nel 1938 per il famoso clarinettista Benny Goodman e Josef Szigeti, violinista. Ne ascoltiamo appunto l'ultimo dei tre movimenti che compongono il lavoro di Bartok, la danza appunto conclusiva, in una interpretazione storica proprio del trio composto da Béla Bartok al pianoforte, Benny Goodman al clarinetto e Josef Szigeti al violino. Ascoltiamo il brano. Thank you. Era l'ultimo movimento da contrasti di Béla Bartók per violino, clarinetto e pianoforte che abbiamo ascoltato nell'interpretazione dello stesso Bartók al pianoforte, Benny Goodman al clarinetto e Josef Szigeti al violino. Sono intanto le 14:40, ricordo agli ascoltatori che siete in ascolto di Antologia e siamo in compagnia del professor Carpitella per il primo dei quattro incontri che avremo con il professore nel mese di gennaio. E ascoltando questo brano il professore voleva aggiungere però una precisazione significativa. Sì, no, volevo dire questo brano di Bartók, a parte appunto l'edizione, l'esecuzione particolare come lei ha ricordato prima, è interessante perché è uno, praticamente quasi l'unico brano in cui Bartók sente l'esigenza di arrivare a una scordatura, una corda del violino, della quarta corda. Ed è questa necessità, vuol dire un bisogno di uscire fuori dal sistema temperato. No, questo è stato tutto nella componente di un certo interesse per le musiche etniche e tradizioni orali, c'è stata questa fuga dal temperato. E lui, questa è una delle poche volte che fa scordare la corda in maniera che si senta di essere fuori dal temperato, un po' quello che poi facevano i pianisti jazz, gli inizi dei pianisti jazz, dove usavano i pianoforti scordati non perché erano sommari, ma perché la scordatura li avvicinava molto di più al suono che non un temperamento regolari. E questo problema della scordatura pone un problema che poi è squisitamente antropologico, cioè fino a che punto identificarsi completamente con l'oggetto, in altri termini l'antropologo si identifica con un gruppo etnico, ne ha le costumanze ma non ha spesso la lontananza critica, tutto questo in funzione di una cosiddetta emicità dal di dentro, e dall'altra però anche un distacco. Infatti Bartók usa l'orchestra o gli strumenti eurocolti, anche il pianoforte, però con un trattamento che, pur rimanendo l'intonazione quella, si avvicina a queste strutture di una musica altra. Il caso più interessante a questo punto di vista è il caso di Alois Saba. Quando si parla di musiche di altre culture si parla sempre di microtoni, di quarti di tono. Beh, insomma, tutti noi sappiamo, per esempio, i quartetti di di Alois Aba, io anzi alcuni anni fa. Ricordiamo per gli ascoltatori che Alois Aba è stato un musicista che nei primi anni del Novecento, quasi contemporaneamente a Schoenberg, ha svolto una serie di indagini importanti sulla diversa suddivisione dell'ottava. Certo, però quello che è interessante, io tra l'altro ho avuto, lui era molto, molto anziano, ma insomma intorno al 55-56 ebbi occasione di sentirlo a Praga, e questo continuo quarto di tono alla fine era monotono, cioè era più trasgressivo quello che faceva Schoenberg nell'ambito di una prospettiva sia pure docafonia, tonalità, che questo continuo quarto di tono spesso è un'invenzione mentale, culturale, occidentale, perché è vero che sono dei quarti di tono, ma non sono i quarti, i microtoni reali di quella musica. Quindi la sensazione non era trasgressiva, era soltanto di una monotonia. Una trasgressione che in qualche modo viene normalizzata poi subito. Sì, sì. E allora Bartok è sempre molto attento a questa problematica, e questa è una delle poche volte nei contrasti in cui c'è questa scordatura. E poi c'è anche qualche intenzione nell'uso del clarinetto, che è uno strumento anche di tradizione popolare nei Balcani. Ecco, adesso soffermiamoci invece sull'altro aspetto di Bartok, sul Bartok raccoglitore, sul Bartok etnomusicologo. Ecco, l'importanza di Bartok e di Kodály fu probabilmente di aver capito che l'unica possibilità di avere sul campo delle ricerche sul folklore musicale dei documenti obiettivamente validi poteva essere data dalla incisione sonora e dalla trascrizione, dallo studio dei brani attraverso le registrazioni. Sì, e in questo senso direi che se uno vuol dare sempre degli inizi precisi a qualcosa, l'inizio di questa disciplina senza dubbio è il fonografo Edison. Il fonografo Edison rappresenta veramente uno spartiacque, perché il ricordo dei suoni non è incamerato ed è monopolizzato soltanto dalla memoria del raccoglitore, che può essere più o meno fino, ma è affidato ad un oggetto apparentemente neutro, come può essere il registratore. Il problema della memoria è sempre quello, involontariamente, di rendere etnocentrico il ricordo, e quindi in questo caso i suoni, sicché c'era chi ascoltava delle musiche che erano secondo altre scale, altri modi, che però poi se l'aggiustava secondo la scala tonale. Questa è stata una delle imprese dell'etnomusicologia molto interessanti. Bartok e Kodály usarono questo fonografo Edison 1904-1905, e poi si affidarono molto alla dobbiamo dire un po' anche presunta oggettività del registratore, indubbiamente molto di più di quanto non potesse fare la memoria, che subito adattava le scale e i modi. È chiaro che la registrazione, sia pure fragile, di 3 minuti di fonografo Edison, di fonografo di cera, ti dà un'attendibilità maggiore. Capirono che il momento filologico era quello di utilizzare uno strumento che era stato inventato poi in definitiva 30 anni prima che da Edison, e a cui poi viene applicato un variatore di velocità che permette uno studio più accurato. Sì, più... soprattutto sì, per i ritmi, un rallentatore, diciamo, fu fatto un rallentatore. Poi dirò un attimo in questo senso il lavoro filologico di Bartok implica sempre questa ambiguità che è tipico dell'antropologia, ma forse è ambiguità dell'umanità, e c'è il problema della doppia verità. Bartok ti fa un'analisi filologica minuziosa come uno che raccoglie delle farfalle, e poi contemporaneamente però ti fa anche i canti armonizzati col pianoforte, che sono affetti contrastanti, dà un'armonizzazione di un certo tipo, però è divulgativo. Sì. Il problema della divulgazione della scienza è un nodo antropologico di Bartok. Ascoltiamo adesso una lettura estratta da Come e perché raccogliere la musica popolare, che è uno scritto di Bartok del 35-36, che è inserito negli scritti sulla musica popolare, che furono appunto a cura di Diego Carpitella. E ascoltiamo questa lettura, che riguarda proprio l'importanza del fonografo Edison. Gianni Bersanetti legge per noi. L'indagine odierna sulla musica popolare considera ormai come indispensabile condizione di lavoro l'uso del fonografo o del grammofono. Dal punto di vista scientifico, solo quel materiale che è stato registrato ha una patente di assoluta attendibilità. Per quanto grande possa infatti essere l'abilità di chi annota ciò che ascolta, nessuno tuttavia può essere in grado di indicare con esattezza ogni particolare. Note appena toccate, lievi glissati, i rapporti di valore nei loro dettagli più minuti. non lo può fare, se non altro, perché simili cose cambiano di esecuzione in esecuzione, e per quante volte ci si faccia ripetere una melodia, è certo che questi piccoli elementi ornamentali saranno sempre diversi. Quindi, anche nel migliore dei casi, quando cioè si riuscisse a raggiungere un alto livello di approssimazione, anche allora ci troveremmo sempre di fronte alla notazione di un canto che in realtà non si è mai sentito. Che se anche un raccoglitore dotato di straordinarie capacità riuscisse effettivamente a trascrivere le melodie udite una sola volta, con tutte le loro più sottili sfumature, vi sarebbe comunque ancora qualche cosa di impossibile a fissarsi sulla carta, e cioè il colore del canto popolare, il suo timbro. Questo lo si potrebbe tutt'al più descrivere meticolosamente, ma rimarrebbe sempre l'ostacolo dello sforzo immaginativo a cui si sarebbe costretti, ostacolo che non riuscirebbe mai a darci un'esatta idea di ciò che esso è effettivamente. Per tutto ciò, la registrazione fonografica ha tanta importanza. Il fonografo ha poi un'altra utilità, anche se meno rilevante di quella ora illustrata. Esso risparmia fatica al cantore, all'esecutore e al raccoglitore, perché invece di dover ripetere decine di volte la melodia, basterà registrarla due o tre volte, ed è facile immaginare l'economia di tempo che si può in tal modo realizzare. Inoltre, se si vuole trascrivere ciò che è stato registrato, si può rallentare la velocità dei giri, è preferibile dimezzarla così che tonalmente sia l'abbassamento di un'intera ottava, e trascrivere con esattezza anche gli abbellimenti più complicati o appena percettibili, le differenze ritmiche di particolare complessità, insomma tutte quelle sottigliezze che mai si sarebbero potute rilevare in altro modo. Ecco, questo era un estratto appunto dagli scritti, dagli scritti sulla musica popolare. Non so se vuole... Questo un po' una cosa a cui accennavamo prima, questa possibilità lo dice Bartok, dice invece di far ripetere tante volte attraverso, quando prima la documentazione e la trascrizione era per via aurale, diciamo, certo, così, e meccanica di trascrizione manuale, aurale manuale, mentre doveva far ripetere diverse volte al cantore la melodia, oppure quindi faticosa e imprecisa, insomma. Sì, faticosa e imprecisa. Invece il fonografo Edison ti dava la possibilità di registrarlo due o tre volte, come dicevo, sempre considerando che se noi ascoltiamo adesso una registrazione sul fonografo di Edison nel rullo di cera e sentiamo un'alta fedeltà adesso, certo, c'è un abisso, è come se uno sente questi dischi a 78 degli anni 20 di Toscanini, beh, insomma, sì, un direttore d'orchestra può avere un'idea di com'era Toscanini, se no noi siamo abituati ad un altro ascolto. Fra non molto ce ne renderemo conto, sì, anche noi con un ascolto di un vecchio 78 giri. Ah, ecco. E quindi lui sottolinea questo, cioè la possibilità nel replicare il documento sta ad individuare alcune cose che all'ascolto diretto non senti. È stato così anche, ma per altre cose alla fine dell'Ottocento con Edison, per esempio con la cinematografia scientifica. Sì. Meillet diceva che era un fisico acustico, un fisiologo francese, diceva certe volte si vedono più cose attraverso la registrazione che non a occhio diretto, a occhio vivo, perché ti sfuggono nell'immediatezza. E questo, quindi il fonografo Edison direi che è stato decisivo, infatti poi questa è la disciplina che è nata praticamente quasi col fonografo Edison. Sì. Questo non vuol dire sentenziare e buttare tutto quello che è stato fatto prima, che sarebbe veramente, certo, ridicolo, però è anche vero che ti accorgi dei margini di approssimazione della trasmissione del sapere. In fondo questo è anche il problema colto, noi non sapremo mai esattamente qual era l'ascolto di strumenti e di voci del 400, figuriamoci di cose popolari. Quindi è un fatto importante che Kodály pinse soprattutto Bartok a occuparsi di questa cosa. Anche perché Kodály ha preceduto Bartok, sì, nel 1905. Sì, è interessante però che poi i risultati sono diversi. Cioè che Kodály rimane sostanzialmente un musicista romantico citazionale. Mentre in Bartok c'è uno scatto diverso. È interessante, pur attingendo alle stesse fonti, le soluzioni culte, personali, artistiche sono diverse. Beh, io credo che appunto Bartok e Kodály poi capirono che in fondo, oltre all'importanza della registrazione, vi era anche la necessità di stabilire quale fosse la funzione di questi campi, esatto, nell'ambito, esatto, della, esatto, comunità. Un problema, sì, tutt'altro che secondario. Sì, erano molto sulle circostanze. E in questo senso abbiamo citato prima Brailoiu, sì. La sociologia di un certo tipo francese e rumena di quel periodo influenzò molto Bartók e Kodály sulla contestualizzazione dei canti. Ascoltiamo adesso un altro frammento, sempre dagli scritti della musica popolare, sempre dallo stesso scritto, Come e perché raccogliere la musica popolare, che appunto ricordo è di Bartók del 35-36 e che è inserito negli scritti sulla musica popolare curati da Carpitella. Ascoltiamo questo frammento letto da Gianni Bersanetti, che riguarda proprio la necessità di stabilire quale appunto fosse la funzione di questi canti nell'ambito delle comunità. Un principio da tener presente è quello che bisogna condurre il lavoro di raccolta possibilmente recandosi sul posto, vale a dire nei villaggi. Non è infatti un buon criterio quello di servirsi di persone che hanno lasciato il loro villaggio e sono andate a vivere altrove, come ad esempio le domestiche venute in città, i mendicanti, i prigionieri di guerra. Questi individui che si sono staccati dal luogo d'origine possono essersi anche inconsapevolmente allontanati dalla comunità musicale del loro paese, fino al punto di cambiare il loro stile di esecuzione, che se anche poi le loro esecuzioni e i loro canti fossero buoni e fedeli al modello originario, tuttavia il raccoglitore si troverebbe sempre di fronte ad una grave lacuna, cioè la mancanza di quell'atmosfera particolare che si determina quando un cantore si esibisce fra la sua gente. Si stabilisce allora una specie di contatto fra lui che canta e i contadini che gli fanno cerchio. Tutto risulta più genuino, spontaneo e vivo, mentre non è raro il caso che si stabilisca a un certo momento una collaborazione generale per cui vi è chi corregge, chi rinfresca la memoria, chi suggerisce una parola dimenticata ma forse importantissima. Insomma, si ha il vero esempio di cosa significhi il canto nella vita della comunità, in quanto soltanto così lo si ascolta e lo si coglie nella sua giusta caratteristica di manifestazione collettiva. Ecco, mi sembra che queste parole di Bartók siano significative. Una mentalità. Sì, indubbiamente è un testo che provoca veramente una catena di riflessioni. Una delle tante riflessioni è quello che la situazione da quando scrive Bartók a oggi è completamente non so neanche che verbo usare. Oggi non è assolutamente possibile. Questo è un sistema naturalistico tipico di Brailoiu. Brailoiu vedeva dove uno aveva fatto i militari, per quanti mesi l'aveva fatto, dove era stato in famiglia, dove aveva fatto così, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che oggi, con tutto quello che riguarda radio, televisione, è tutto saltato. Questo sistema di indagini è assolutamente impossibile. Infatti, oggi come oggi è molto più difficile fare queste ricerche. E bisogna andare proprio con la spilla per prendere la farfalla, esattamente cosa vuoi, ma che non è più questa situazione, e quindi questo ti dà anche il senso del tempo dopo la bellezza di 85 anni, insomma 84 anni, nella diversa situazione. Invece per quello che riguarda la funzionalità è interessante per quello che riguarda il cosiddetto controllo sociale di chi esegue, e questo si avvicina molto a alcune teorie del Circolo di Praga. Jacobson, linguisti soprattutto, c'è questa verifica che tu entri in un mondo, quello di tradizione orale, dove appena canti, io voglio dire che in Italia fino a 30 anni fa questo accadeva anche, fino a 40 anni fa, e cioè sei subito controllato, se sei intonato male, se non dici la parola, se non te lo ricordi, c'è una verifica di controllo sociale della Lang. E questo è tipico della tradizione orale. La tradizione scritta, in fondo tu scrivi una cosa, la metti nel cassetto, non ti controlla nessuno. Ma nella tradizione orale, nel momento della concretizzazione dell'interpretazione, hai subito questa verifica e hai anche un'intercambiabilità tra chi esegue e chi ascolta. A noi c'è una tale articolazione della produzione, perché non ti può immaginare nessuno che sta alla Via della Conciliazione al posto di Karajan, dice no, dirigo io. Cioè, sono dei salti, degli abissi del sapere, e lui nota molto bene questo dei controlli, di andare sul posto, e subisce un po' anche le idee sociologiche di Brailoiu. Quindi è un pezzo che ti dà la dimensione del tempo e di caratteristiche e strutture sociali che sono cambiate, ma io non dico questo con tono patetico o col giudizio del poi, dico l'intensità con cui lui ha vissuto questa cosa, perché poi dentro c'è stato un riassorbimento strutturale dal punto di vista rigorosamente musicale. Vogliamo ascoltare uno di questi brani raccolti da Bartok? Sì. Ecco, si potrebbe ascoltare appunto uno di questi brani che furono registrati sotto la supervisione di Bartok. È un brano molto suggestivo. Di che anno è? Non mi ricordo l'anno. E questo non era specificato. Comunque fu registrato intorno al 1930. Ah, ecco, perché gli anni 30 è stato un momento in cui lui riprese alcune cose. Ecco, è un brano per flauto, un flauto di fattura primitiva, sì. Che segue una sinuosa melodia sulla quale il suonatore vocalizza contemporaneamente, sì. Ottenendo un effetto appunto abbastanza inusuale, piuttosto suggestivo, e a volte anche a una ottava o un'ottava e mezzo più grave rispetto all'estensione dello strumento. Poi il cantore, che nello stesso tempo si identifica anche col suonatore, canta appunto, interrompe il suono dello strumento per cantare una suggestiva, quanto mai trovo ancestrale, melodia. Ascoltiamo questo brano. Era un brano registrato sotto supervisione di Bartok negli anni 30. In studio, in realtà venivano portati poi i contadini, i cantori, presi sui luoghi originari, venivano portati poi per fare delle registrazioni. Infatti questa era abbastanza pulita, non era da un rullo di cera. Ecco. Sì, in questo senso è interessante, tante osservazioni da fare. Certo. Naturalmente questa forma della sequenza strumento-voce fatto dallo stesso esecutore è una delle forme, con tutti i rischi che si ha di usare questa parola, tra virgolette elementari, dell'alterno strumento-voce, una delle forme che si trovano in culture molto lontane, cioè qui è una cultura in definitiva sempre eurofolclorica, mentre in cultura c'è sempre questo suonare alternato alla propria voce, suonare un'altra voce. Ci sono degli esempi in Sicilia con lo stesso, per esempio con lo scacciapensieri, il marranzano, eccetera, prende una parte strumentale e poi lui canta. E anzi alcuni vedono in questa forma una forma quasi, pure se si tratta di una sequenza orizzontale, vedono già un inizio di una eterofonia, cioè pur essendo orizzontale però questa sequenza. Un'altra delle tante cose, ma se ne è aumentata un'altra dopo l'osservazione che ha fatto lei sulla registrazione in studio. C'è un'altra cosa, è uno dei veicoli della fuga al sistema temperato tonale della musica eurocolto occidentale, e fu Bartok la grande sorpresa, e si trova anche in alcuni degli scritti che voi avete prima citato, e cioè la pentatonia. La pentatonia è stata una specie di grifone contro la tonalità tradizionale, perché i rapporti dei suoni nell'ambito della pentatonia erano diversi: la sensibile non è più diversa, la quinto grado non è il quinto grado, il terzo non ha più il valore determinante della scala eptatonica. E sulle teorie di Bartok, che diceva che questa pentatonia andava dall'Ungheria fino al fiume Giallo, poi ci sono state varie revisioni critiche, ma Bartok non aveva sotto di sé del materiale, tanto materiale da poter dare un giudizio ancora sull'estensione e la caratteristica della pentatonia. La pentatonia è una cosa che ha avuto chiaramente verso gli anni 50. Ma Bartok, lui formulava quando questo. Infatti, Bartok insisteva molto anche sulla naturalità, sì, proprio sulla della pentatonia, naturalità, sui rapporti numerici interni, sì, a questa, sì, alternanza di suoni. Questa è un'idea, cioè è uno dei di quel andare. Il problema degli universali e delle universali. La naturalità nascondeva un problema di universali, e che era una cosa anche tipica della sociologia degli anni 30, tipo Marcel Mauss, eccetera. L'altra cosa dello studio è molto interessante, perché dinanzi a dei, sì, così, a persone prese da sindrome del campo, soprattutto, e dico verità che un po' qualcuno mi ha dato che era un po', avevo la sindrome del campo, cioè in maniera assoluta, non si discute questo, anche quello poi va a un momento commisurato, se non rischi una identificazione che non ti fa essere più critico, rimani accoppato dai materiali. Però è vero che si potevano fare già da allora delle registrazioni in studio, perché chi eseguiva non aveva uno spaesamento tale, se portato via dal proprio villaggio andava a Budapest. Naturalmente doveva essere una persona con cui avevi molta confidenza, che entrava agio in città con uno studio, e allora quando scattava questo meccanismo della ripetizione e dell'interpretazione del sapere tradizionale, non era spaesato. È stata sempre un'operazione molto delicata, e oggi forse questa problematica c'è e non c'è, ma, che ne so, per esempio mi è venuto in mente in questo momento cosa ha fatto per la tradizione in Campania Roberto De Simone, che ha fatto quell'album sulla musica in Campania. Beh, lui li ha portati tutti in studio e era persone che conosceva molto bene e che quindi non aveva, e che avevano in fondo una leggera, virgolette, professionalità. Allora è chiaro che con una tecnologia in studio puoi avere dei suoni, li senti proprio come suono, mentre col registratore sul terreno non puoi avere gli stessi effetti. Cioè il registratore sul campo sembrerebbe dare adito, a virgolette, ad una spontaneità, questa va tra virgolette, e sullo studio è vero che ti può avere una distorsione di spaesamento, però poi come sono messi i microfoni ufficialmente oggi, ti dà la possibilità di vedere certe finezze acustiche che sono poi quelli che tu senti nel reale e non attraverso il registratore sul campo. Insomma, è una problematica molto interessante. Evidentemente negli anni 30 lui aveva delle persone che conosceva, di cui aveva una confidenza e si fidava, al punto di poterli portare in uno studio e incidere, o col fonografo Edison o col 78. Ormai la tecnologia credo sia arrivata a dei livelli, anzi, sì, sicuramente a dei, sì, livelli di sofisticazione per quanto riguarda le registrazioni anche sul campo, certo, come certo diceva lei. Però forse per assurdo, sì, non serve più neanche tanto. No, la cosa divertente è appunto questa, che in certo punto non c'è. Ormai. Cioè, se adesso se vuoi trovare un certo tipo di tradizione in Italia, puoi trovare una tradizione familiare. Ecco. Di nucleo familiare, bello, di struttura sociale. Strutture sociali non ormai c'è una, sono completamente diversificate. Adesso, senza voler essere puristi, ma insomma c'è un cambiamento, certo, molto forte. Io ho avuto la possibilità nell'arco, insomma, di circa 25 anni, 30 anni, di constatare i cambiamenti, e se hai questi cambiamenti vertiginosi, un senso di vuoto che non sai come fa. Però poi ci sono dei dettagli che ancora, insomma, sono di identità. La famosa farfalla che ricordava lei prima. So. Ecco, abbiamo già ricordato che nel 55 vengono pubblicati per la collana Viola di Einaudi gli scritti sulla musica popolare di Bartok, appunto a cura di Diego Carpitella. Ma la pubblicazione di questi scritti di Bartok genera una aperta polemica tra Carpitella e Massimo Mila, dalle pagine proprio del notiziario Einaudi. Ecco, in sostanza la polemica, tutt'altro che credo pretestuosa, venne iniziata da Carpitella che contestava a Mila alcune righe di un suo scritto, sugli scritti. Una recensione era appunto sulla pubblicazione, appunto dopo la pubblicazione degli scritti di Bartok. Ecco, non mi sembra ozioso ricordare questo dibattito che appunto data 1955, in quanto credo se ne deduca uno spaccato culturale abbastanza significativo. Lo commenteremo adesso con Carpitella. In sostanza, ecco, il passo del Mila sul quale Carpitella era in completo disaccordo era questo passo che adesso Gianni Bersanetti leggerà, queste poche righe. È sintomatico che Bartok, il quale perfino in Turchia e nell'Africa settentrionale si dedicò alla ricerca delle espressioni melodiche popolari, non abbia mostrato alcun interesse per il folklore musicale italiano o francese o tedesco o svizzero, sebbene in questi paesi si sia recato spesso in visita e vi abbia talvolta soggiornato a lungo. È evidente che dal canto popolare di queste nazioni non si aspettava rivelazioni di un particolare idioma musicale, magari gemme preziose, ma un linguaggio armonico e tonale che in sostanza non si scosta da quello della musica colta europea. Un giro di frase melodico, fondato sui sottoprodotti del corale luterano e sui detriti delle arie e dei cori d'opera italiana e francese, cioè sui cardini stessi del linguaggio musicale romantico. Ecco, queste erano le parole di Massimo Mila. Prima di lasciare adesso la parola a Carpitella, che vedo, leggo nei suoi occhi la voglia di riaprire forse in qualche modo questa vecchia, però di riaprire, ma di chiarire, di commentare, io darei invece la parola al Carpitella di allora, che appunto poco più avanti, dopo aver condotto una serie di valutazioni a favore di Bartok, ma non solo di Bartok ovviamente, a sostegno di una riscoperta, di un'autentica musica popolare, Carpitella, dicevo, così continuava. Dinanzi alle osservazioni di Mila, quasi ci chiediamo, io e alcuni miei amici e compagni di lavoro, che in questi ultimi 5 anni abbiamo girato quasi tutte le regioni italiane per raccogliere e incidere canti popolari, ma che abbiamo lavorato a fare? È ormai pacifico, infatti, che esiste un sottofondo della musica popolare italiana che non ha niente a che fare né con la musica colta, né con la chiesa o cose simili. Sottofondo che le ricerche storiche non erano riuscite fino adesso a scovare. È un po' come la questione del petrolio. Ebbene, in questa musica popolare, rintracciabile soprattutto nell'Italia centro-meridionale e insulare, ma anche nell'arco alpino, in Liguria, in Piemonte, si incontrano scale pre-pentatoniche, pentatoniche e modali, note blues, diafonie e polifonie varie, strutture asimmetriche, particolari tecniche di esecuzione, eccetera, che con la tradizione colta e chiesastica non hanno proprio niente a che fare, né tantomeno con il linguaggio musicale romantico. E se capiterà potrò far sentire a Mila tutto questo materiale e tra l'altro egli potrà ascoltare su quali motivi alcuni nostri contadini adattano le canzoni di contenuto religioso. L'influenza colta e chiesastica esiste invece in un altro tipo di musica popolare italiana, popolaresca, che noi chiamiamo anche artigiana, e che è frutto tipico della storia cittadina del nostro paese. Ed è soprattutto a questo tipo di musica che fino adesso si sono riferite la maggior parte di raccolte di canti popolari italiani, ed è sulle deformazioni di essa che si basò, per esempio, lo strapaese rurale del Ventennio Nero. Cosicché in Italia, allo stato attuale delle ricerche, il problema della musica popolare è da porre in altri termini. E cioè, se in un paese a forte tradizione colta parzialmente nazionale, e molti aspettano una storia della musica italiana, cioè del perché è tale o si chiama così, questo patrimonio musicale popolare primitivo è destinato a rimanere un puro dato archeologico, che comunque ha interessato fino a 50 anni fa in maniera organica, oggi in modo discontinuo e frammentario, circa 2/3 di popolazione italiana, e segna forse a scomparire tra breve con un rapido sviluppo industriale, oppure se questa musica popolare ha la possibilità di circolare in senso culturale e quindi essere una determinante lessicale nell'ambito nazionale. Nel primo caso sarebbe dimostrata ancora una volta una divaricazione contraddittoria della società italiana, già osservata in altri campi. Nel secondo caso nessuno se la sente ingenuamente di profetizzare ed è difficile prevedere quali possano essere gli sviluppi, i quali comunque e in ogni caso sarebbero condizionati dalla suddetta tradizione colta. In una cosa invece sarei stato d'accordo con Mila, cioè se egli avesse notato che i risultati di queste ricerche italiane non sono ancora venuti, se questa musica popolare ha la possibilità di circolare in senso culturale e quindi essere una determinante lessicale nell'ambito nazionale. Nel primo caso sarebbe dimostrata ancora una volta una divaricazione contraddittoria della società italiana, già osservata in altri campi. Nel secondo caso nessuno se la sente ingenuamente di profetizzare ed è difficile prevedere quali possano essere gli sviluppi, i quali comunque e in ogni caso sarebbero condizionati dalla suddetta tradizione colta. In una cosa invece sarei stato d'accordo con Mila, cioè se egli avesse notato che i risultati di queste ricerche italiane non sono ancora venuti alla luce. È vero, posso però assicurarlo che tra breve tempo uscirà un'antologia documentaria in dischi della durata di circa 2 ore e che è prossima una serie di pubblicazioni in questo senso. È sperabile allora che molti luoghi comuni sulla musica popolare italiana possano essere definitivamente seppelliti ed è a tale scopo che gli scritti di Bartok sono un solido punto di riferimento. Ecco, ricordiamo che era la risposta di Carpitella in seguito a una recensione del 1955 di Massimo Mila alla pubblicazione, appunto, dopo la pubblicazione degli scritti di Bartok, che erano appunto a cura di Carpitella. Ma questa polemica che è venuta sul bollettino di Einaudi a seguito di una recensione di Mila provocò un certo contraccolpo, e tant'è vero che mi ricordo Calvino, che era il direttore. Infatti le lettere sono tutte indirizzate a Calvino. Insomma, mi disse: ma come mai questa cosa è diventata un po' tempestosa, un po' animosa anche da parte tua? E io dissi: ma sarà forse che mi trovo in mezzo a queste ricerche, forse formalmente non sono stato molto contenuto. Vorrei dire, c'è da fare varie precisazioni, naturalmente un po' col senno del poi, 35 anni dopo. Comunque, Massimo Mila questa cosa però non l'ha mai digerita, questa polemica. Ma non è una cosa che è finita in armonia, o come si suol dire, un vecchio detto popolare, a tarallucci e vino. No, è stata sempre una cosa che... No, poi naturalmente siamo parlati, incontrati, visti, però è una cosa che non... E infatti lui poi nella risposta usa una parola in cui dice che la posizione di Carpitella è risibile. Ecco, no, è risibile in questo senso, cioè per quello che riguarda la musica di tradizione etnica e popolare di altri paesi, già c'era una documentazione vasta. Dove lui aveva più ragione era per quanto riguardava la situazione italiana, perché... era uscito nel 57-56 negli Stati Uniti, uscì la prima antologia di canzoni di tradizione orale, uscirono questi due dischi della Columbia e in Italia uscì La bellezza di 17 anni dopo, tanto per rendersi conto. Ricordiamo per gli ascoltatori che non hanno punti di riferimento, cioè questi due dischi vennero realizzati da lei e da Lomax, Lomax. In Italia nel 54. E allora lui aveva ragione che non esisteva questo corpus in dischi, però dico, c'erano già state delle trasmissioni, cioè è vero soltanto per la situazione italiana che lui non poteva avere ancora un panorama commerciale come uno compra un libro, però per quello che riguarda la situazione internazionale era circa dalla fine dell'Ottocento che esisteva un archivio a Parigi, a Budapest stesso. Il fatto che poi non si fosse interessato della musica popolare italiana, Bartok, ma lui non aveva neanche, lui aveva un'idea molto precisa, documentarsi sulla storia della musica di tradizione orale del sud-est europeo. E infatti poi fu chiamato in Turchia, quando venne in Italia andò a Albano e sentì una canzone Albano, che deve essere una canzone alla longa, come si dice, e scritte a coda e dice: ho sentito un canto che è come l'ora rumena, peccato che non posso stare in Italia a vedere altre cose. Mina in questo senso, ma non era un suo cosiddetto errore personale, no, l'idea che in paesi come l'Italia ci fosse stato soprattutto un fenomeno di discesa e che quindi tutta la nostra cultura fosse influenzata dalla musica colta. Ora, per esempio, nei canti popolari della musica colta, se vai in Emilia Romagna, sì, ma tracce in Lucania, in Campania, in Sicilia, di musica, del melodramma, dell'opera, non ci arrivava. Quindi era un po' questo che un po' ha reso un po' tesa la polemica. Poi la documentazione è venuta fuori e non c'è stato neanche motivo. Però lì fu un momento caldo e forse animosa, sono io che fui particolarmente animosa. Sì. No, ma anche Mila, come ascolteremo tra poco. Ecco, appunto, è sempre un po' imbarazzante in questi casi rispolverare delle vecchie polemiche dando voce a uno solo degli autori delle considerazioni di allora. Ecco, ma per rimediare leggerei anche un breve estratto dalla seguente risposta appunto di Massimo Mila, abbastanza ai toni piuttosto accesi, a Carpitella, che mi sembra ben riassume e chiarisca i termini della questione, nonché dare appunto un quadro della situazione all'epoca, della visione che si aveva dei fatti demologici in generale, forse. Quale motivo mi spingeva a sottolineare il fatto che l'interesse folclorico di Bartok si sia manifestato solo per quei patrimoni etnici che presentassero una sostanziale differenza di sintassi e di grammatica musicali rispetto alla tradizione musicale dotta dell'Ottocento? Il timore che, additando ad esempio l'esperienza artistica di Bartok e Kodály, i quali dotarono l'Ungheria di una moderna musica nazionale ispirandosi al canto popolare ungherese, si invitassero i nostri musicisti a trarre ispirazione da Piedigrotta e da La Violeta La Valavà. Apprendo invece con infinito sollievo che su questo siamo quasi tutti d'accordo. Nemmeno Carpitella vuole infliggerci sinfonie e concerti grossi su La Violeta La Valavà. Meno male, respiro. Chiarito questo punto, che mi stava veramente a cuore, potrei anche concedere pacificamente a Carpitella tutto il resto, dove non ho particolari interessi culturali né posizioni mie di pensiero da difendere. Che le cose stiano come credevo io o stiano come ora dice lui mi è praticamente indifferente. Ma mi adotterò volentieri a fargli da spalla, a proporgli, cioè, possibili punti di vista diversi affinché egli possa chiarire il proprio pensiero e sbrogliarlo da una grossa contraddizione storica in cui, come vedremo, è impacciato. Dunque, acquisito il fatto che il ricorso al canto popolare è utile soltanto laddove il canto popolare indichi sistemi musicali diversi da quello della tradizione classica sette-ottocentesca, la divergenza tra Carpitella e me consiste in questo. Io credevo che in Italia, e in Francia e in Germania, il canto popolare fosse, per così dire, sopraffatto dalla luminosa tradizione della musica d'arte e non se ne differenziasse sostanzialmente, riducendosi praticamente a sottoprodotti e derivati di quell'opera lirica che, in pratica, l'ha così largamente soppiantato fra noi. Chi vorrà negare che certi cori delle prime opere verdiane e tante arie del Barbiere, della Lucia, della Lucrezia Borgia, dell'Elisir d'Amore, del Don Pasquale, della Sonnambula, della Traviata, del Rigoletto, della Forza del Destino, si comportano praticamente in Italia come canto popolare, fungono da canto popolare. Ora invece Carpitella ci annuncia che esiste un sottofondo della musica popolare italiana che non ha niente a che fare né con la musica colta né con la chiesa o cose simili e nel quale non è in uso la tecnica musicale della tradizione classica sette-ottocentesca. Al contrario, vi si incontrano scale pre-pentatoniche, pentatoniche e modali, note blues, diafonie e polifonie varie, strutture asimmetriche, particolari tecniche di esecuzione, eccetera, che con la tradizione colta e chiesastica non hanno proprio niente a che fare, né tantomeno con il linguaggio musicale romantico. Bene, ne ho piacere, un piacere grandissimo. Attendiamo che queste scoperte vengano alla luce perché si possa constatare, e non sarà impresa facile, se si tratti di bizzarrie sporadiche e di casi eccezionali, per ognuno dei quali si possa magari ricostruire la provenienza esotica, oppure se davvero essi costituiscano una presenza costante e finora ignorata, per l'appunto, come scrive Carpitella, un vero sottofondo della musica popolare italiana, come è, qui siamo tutti d'accordo, ma lo si sapeva da un pezzo, ed è un isolato fenomeno locale, in Sardegna. Un isolato fenomeno locale, conclude Massimo Mila. Sì, sì. Però io riconfermo non per la solita storia metafisica della vita e della morte, ma confesso che lui aveva ragione, voi siete stati gentili a non citare, che è un altro brano in cui lui dice, però è vero che in quel momento quelli che conoscevamo questi risultati in pieno, come uno compra un libro e sa il risultato di una ricerca, ne eravamo non in molti. Pochissimi, anche perché erano iniziate veramente da pochissimo. Sì. E allora effettivamente lui aveva ragione nel dire non sono ancora venute alla luce in maniera così pressante da poterlo conoscere tutto, però lui aveva avuto anche a suo modo un Senigallia, che a suo modo nei canti popolari piemontesi aveva utilizzato queste trasgressioni dall'intonazione temperata. Quello che veramente a distanza, evidentemente per motivi ideologici, pensava che io mi mettessi a predicare poemi sinfonici o canti della foresta, forse chi lo sa, un po' secondo l'estetica di Zdanov in Italia, ma non c'era bisogno di questo, perché c'era stata una generazione dell'80, certo. Malipiero, Alfano Casella, Respighi, certo. Pizzetti, che avevano utilizzato questo patrimonio di fascia mediana, cosiddetto popolaresco, artigiano urbano, e la stagione italiana, un Bartolo italiano non era prevedibile. Ecco. Ma quanto è stata importante secondo lei la matrice crociana, il liderismo crociano in Mila, in questi giudizi abbastanza duri, devo dire, di Massimo Mira nei confronti di una nuova disciplina in fondo? Sì, certo. Beh, in questo senso, anche se Mila è riconosciuto un punto di riferimento culturale importante, un crociano illuminato, per i suoi storici della musica, e anche la sua, oltre al suo punto di vista, il suo pensiero, le cose che ha scritto, anche la sua persona, come la sua esistenza, però il fatto di ritenere che magari soltanto la melodia potesse essere l'indice di identità di un prodotto, e già questo rientra in parte in alcuni presupposti di una cosiddetta estetica crociana. Invece ci sono tanti altri elementi: l'intonazione, il timbro, il tipo di emissione di voce, l'altezza del registro, una serie di parametri che possono far diventare, virgolette, popolare, termini che poi oggi andrebbe chiarito. In realtà lì si riferiva molto alla musica di tradizione orale di una società agropastorale. Se uno dovesse definirla in maniera puntuale, più di quanto non fosse l'uso del popolare nel tempo. Però credo che quella polemica risentisse un po' da chi a tutti i costi voleva che fosse innalzato sull'altare il popolare, e chi cautamente con critica invece raffrenava per fare delle distinzioni. Ma poi naturalmente la documentazione ha travolto i punti di vista sia degli uni che degli altri. Ecco, certo, l'etnomusicologia all'epoca di questa breve ma intensa polemica non aveva ancora delle sicure fondamenta, anzi tutt'altro. Si era proprio agli inizi degli studi seri condotti sul campo. Erano gli anni delle spedizioni, chiamiamole così, anche se il termine è un po' colonialistico forse, di Lomax, di De Martino, appunto di Carpitella con Lomax e De Martino, ma di questo avremo modo di parlare. Ora invece tenterei col professor Carpitella di tracciare le origini proprio dell'etnomusicologia in Italia, che come attenzione verso il folklore musicale mi sembra possa senz'altro inserirsi in una vena meridionalistica che caratterizzò appunto l'etnomusicologia italiana, almeno ai suoi esordi. È in questa ottica, o forse in questo interrogativo sulle radici meridionali, sia geografiche sia culturali, vengono alla mente nomi quali Carlo Levi, che nel 1945 appunto pubblica il celeberrimo Cristo si è fermato a Eboli. Certo, ci si potrà domandare la pertinenza di Levi, ma sicuramente questo romanzo ha avuto tra i tanti meriti quello di attirare l'attenzione sui problemi dell'altra Italia, che incominciava ad entrare nella storia, o a farsi, si potrebbe dire, a fare irruzione nella storia, come appunto disse De Martino, una celebre frase di Ernesto De Martino, un'altra Italia che si faceva sentire dopo il secondo dopoguerra. Ma iniziamo con l'origine degli studi demologici e cerchiamo di verificare con il professor Carpitella se questa vena meridionalistica è stata veramente una realtà. Lei mi fa una domanda che apparentemente sembrerebbe a me di facile risposta, invece neanche a me è di facile risposta, perché forse finora non è stata fatta una rigorosa storia dalla Z di storicizzazione in questo senso. Infatti, se si chiede così anche a qualche antropologo, etnologo italiano, quando è cominciata l'etnomusicologia, si vedrà spuntare date diverse. C'è chi lo fa, dice no, nel 73, quando c'è stato il primo convegno di studi etnomusicologici a Roma. Un altro dice no, forse nel 1948, quando è stato creato questo centro di studi di musica popolare dell'Accademia di Santa Cecilia e con le strutture tecniche della radio. Qualcun altro dice, ah beh certo, il Favara ha fatto un corpus sulla musica siciliana nel 1924, che è stato un faticatore formidabile, perché mentre nelle stesse date Parto che Code andavano in Ungheria con il Rulli Edison, lui a mano, era una cosa di trascrizione, ma un manuale orale, non sapeva, forse si sapeva dell'esistenza di questa cosa mitica. D'altra parte il fonografo Edison è stato in Italia veramente mitica, perché una volta che volle essere usato nel 1935, durante il periodo delle colonie italiane, soprattutto dell'Etiopia, decisero, non so in base a quale decreto di legge, norma, regolamento, di andare a fare una registrazione in Somalia, e portarono dei fonografi Edison. Quando arrivarono, naturalmente erano sciolti per il calore, quindi erano completamente sciolti. L'unica volta c'era stata un'impresa di andare a registrare, c'era, quindi figure se nel 24 era così. Cioè, esiste proprio una cosa della discoteca di Stato dove ho scritto questo, non è un'invenzione fantastica, è verificabile. Ma altri li fanno cominciare col Favara o col Ferrara. Poi ci furono anche dei raccoglitori, per esempio, insomma, qual era la figura, qual era la parte della musica? Adesso forse quando verrà Alberto Cirese potremo parlare di questo rapporto tra gli antropologi e la musica. Cioè, veniva considerato una specie di tecnico che sapeva annotare, ma che non sapeva pensare in realtà. Era una specie di braccio positivistico che trascriveva e poi vabbè. Cioè, era considerato un fatto supplementare, un'attività di avviamento professionale, insomma, ma non culturale. Allora, gli inizi, in effetti, le ricerche sono state quelle di Ferrara, un direttore di banda siciliano bravissimo, che si accorse molto dei grida dei venditori ambulanti e cercò di annotarli nei limiti di un'annotazione. Poi Favara ti fa un corpus con 900 pezzi, andando paese per paese a trascrivere, sempre nell'ambito del pentagramma. Durante gli anni stiamo parlando di siciliani della seconda metà dell'Ottocento. Seconda metà dell'Ottocento è Ferrara. Ferrara muore nel 1909, sì. E Favara nel 23-24. Sì, ecco, questi sono i due padri. Poi ci sono altri, per esempio Gavino Gabriel, un sardo, sì, che ha fatto anche delle incisioni con la discoteca di Stato. Adesso ne ascoltiamo. Sì, è stato uno dei primi a fare in studio, chiamava dei cantori sardi, del 1920. Questo è del 30. Ah, del 30. Negli anni 30. Lui ha cominciato anche prima. Infatti ha cominciato anche prima. Cos'è un canto in re? Sì, infatti, canto in re. È proprio lui che canta. Cioè Gavino Gabriel, sì, che ricordiamo è stato tra l'altro anche direttore della discoteca. Lo ricordano ancora, anche perché sì, sì, è morto praticamente a 99 anni, esatto, circa, ha avuto una vita, esatto, lunghissima, è morto, sì, nell'80. Sì. Registrava negli anni 30, appunto gli donava alla discoteca di Stato. È un caso di registrazione in studio, esatto, se ne parlava prima a proposito, esatto, di questo adesso l'ascolto ovviamente è molto, lascia abbastanza a desiderare, perché si tratta di un riversamento che abbiamo fatto sul nastro che ci ha dato la discoteca di Stato, da un vecchio 78 giri appunto della fine, metà anni 20, fine anni 20. E Gavino Gabriel che canta e si accompagna su una chitarra in re la serenata di Gallura. Thank you. sospiri lume cori in cambi ume a me ti mai affidare zitte ti l'unico angetto da morire. Ammetti i sospiri miei, a visita chi d'ogni è tu. Ditili chi porta un petto e l'idolo. Musilei ustinici arricchetti e sospiri di lume cori e in cambi lume annetti. Serenata di Gallura, che interpretata da Gavino Gabriel, che suonava una chitarra in re e cantava, tratto con una splendida voce. Gavino Gabriel è stato veramente un pioniere in questo dell'etnomusicologia, in particolare della musica sarda, inoltre era anche un esecutore valido. Ecco, un altro che si è occupato poi di musica sarda più o meno contemporanea a lui era stato Fara, sì, Fara, che però insegnava in un conservatorio a Pescara, credo, non so, ha insegnato. Però ha avuto certe sistematizzazioni, soprattutto di alcuni strumenti, mentre per le trascrizioni naturalmente ci sono stati problemi. Quando negli anni 50, 60 sono state fatte le registrazioni, ma anche prima, in Sardegna, e poi si sono fatte anche delle trascrizioni, la cura anche dei testi verbali, si è visto insomma che c'era molto da rivedere criticamente, ma questo è normale nella scienza. Non si sa perché nelle scienze esatte si può, una cosa può essere superata, criticata, si può fare un'ipotesi e può essere negativa. Nelle scienze letterarie se non lo sai che è sicuramente positiva, sei già uno... Non si capisce perché in una c'è tolleranza e nell'altra no, probabilmente perché non c'è la sperimentazione, non lo so. Ma Favara fu un altro, appunto, abbiamo ricordato poco fa, che lavorò quasi contemporaneamente a Bartok e Coda, e mi sembra interessante questo accostamento, sì. Cioè, mentre Bartok e Coda in qualche modo avevano avuto l'intuizione di una moderna ottica di vedere, Favara ancora raccoglieva e trascriveva a mano tutti i canti che... Eh sì, questo in lui, proprio anche se, ripeto, nel 1904-5, ma anche prima, specialmente nell'antropologia americana, l'uso del fonografo Edison, lui era veramente stato tagliato fuori, non so se dall'informazione o dalla possibilità di poter fare questa cosa. Lui non lo esplicita, questa cosa, questo problema non è esplicitato. Però il suo corpus, per molte cose, diciamo così, di trascrizione sono valide. È chiaro, per esempio, dove è fortemente legato alla sillabicità del testo verbale, allora le trascrizioni sono molto attendibili. Dove invece si tratta di canti dove il momento del testo verbale preme in un altro senso, per esempio, non so, dei canti dei Salinari, ma dei canti Salinari è quasi impossibile pure adesso fare una trascrizione. Mi ricordo che una volta venne Berio ai nostri seminari di etnomusicologia a Siena e dice qua ti inventi un sistema nuovo per trascriverlo, perché nell'ambito del pentagramma non ci riesce. Allora, questi tipi di canti, tutto quello che era di tipo melogenico, grida, complicato. Invece per quelle altre che riguarda le ottave, le canzoni, canti narrativi, eccetera, quello... Vedremo poi anche quanto la musica contemporanea può aver influito sul certo metodo di trascrizione, quanto ha aiutato. Anche nel senso di liberalizzarla dal pentagramma, sicuramente. Certo. Io ascolterei adesso un canto della mia tittura siciliano, che in realtà è stato registrato non molto tempo fa dal Folk Studio di Palermo, che ce ne ha fornito appunto la registrazione. La singolarità di questo accoppiamento sta in questo, cioè che è uno dei canti che furono annotati dal Favara. Ora, i canti di Favara ovviamente non abbiamo una testimonianza sonora, l'abbiamo invece adesso. Ascoltiamo il documento. Questo canto a mia tittura è un classico, potremmo sì, dire. Sì, sì, infatti questa registrazione, come appunto l'hai detto prima, è fatta da Folk Studio, che è un'istituzione diretta da Elsa Guggino, a cui collaborano anche dei giovani etnomusicologi e musicologi di Palermo e siciliani, che hanno fatto veramente un buon lavoro. E un lavoro che hanno fatto era quello proprio di verifica a distanza, direi quasi a distanza di più di mezzo secolo, e hanno verificato che alcuni di questi canti esistono e hanno potuto verificare anche il rapporto che passa tra trascrizione e questo tipo di canto. Ho sentito che interessante è questo canto, è interessante questa invocazione, questa preghiera orale, come avrebbe detto Moss, e in cui c'è un'invocazione prima che si facesse la battitura del grano. Il rumore che si sente è quello del cane battuto nell'aia da un cavallo. 34 anni fa, quando facemmo questo viaggio anche con l'Omax, ancora si faceva la battitura nell'aia. Anzi, c'erano accanto all'aia c'erano i modicani, cioè erano dei contadini di Modica specializzati di prendere tutto quello che restava dalla battitura del grano dopo che era finito. E venivano con dei carri, come dei nomadi, e si portavano appresso il grano che era restato, si chiamavano. Ed era ancora una cosa che si faceva. Naturalmente adesso no, proprio. È veramente un restauro d'antiquariato. Mi sembra significativo anche il modo di cantare, cioè questo modo lirico, questo modo acuto, come ebbe da notare Lady. Sì, questo del modo acuto infatti è una caratteristica dello stile dell'area mediterranea e soprattutto nei canti di lavoro. Ci fu Lomax, che dopo che venne in Italia fece un suo saggio molto noto su nuovi argomenti, su ipotesi sul canto popolare italiano, in cui lui partiva anche da alcune premesse di tipo psicologico, e cioè che per esempio il registro acuto dipendeva anche da una forma di repressione sessuale, soprattutto nell'esecuzione delle delle ninne nanne da parte delle donne. Fu una teoria molto discussa, ma che affascinò allora anche sociologi, per questa teoria naturalmente un certo tipo di antropologia e non altro. E questi stili di canto e del registro acutissimo è tale che certe volte in alcuni canti, in questa registrazione, non si sa se la voce è femminile o è maschile. È una cosa molto frequente. Forse io direi due parole anche sul P3, che abbiamo giustamente trascurato. Questo medico che aveva iniziato la sua professione nei quartieri popolari di Palermo nel secolo scorso, mentre infuriava il colera, e seppe essere letterato e filologo. Tant'è vero che appunto, ad esempio, Giovanni Verga non esitò a esaltare le sue pagine che rievocano la vita popolare siciliana. Il P3, che fu autore di una monumentale biblioteca delle tradizioni popolari. Dico qualcosa, ma desidererei che Alberto... voglio dire, no, una cosa, fu un descrittore notevole, soprattutto quello che riguarda il Cunta Storia, ecco, e l'opera dei Pupi. La descrizione di P3 è veramente impressionante. Con me è impressionante il linguaggio del gesto e il linguaggio degli occhi, una descrizione formidabile. Lui era, è il caso di dire, io vorrei dirlo con suplesso, cioè voglio dire, è chiaro che lui veniva da una tradizione di logica verbale, quindi trascrivere la musica non era cosa sua. Ci sono nei suoi canti delle appendici di fortini, ma sono limitate, come il nigra, la stessa cosa. Ecco, intanto stiamo ascoltando in sottofondo un Cunta Storia siciliano. Genovese, nel Palazzo dei Normanni. Ecco, che narra appunto, che fu registrata da Lomax e Carpitella nel 54, e appunto narra le gesta di Carlo Magno. Ascoltiamolo un attimo in primo piano. Poi. Mi è veglia, come se fe, ve la vexa, sa lo stesso fe, ce lo fa, verrerà, doma quando fo, c'è una grande vesta, se due cavale, se dove delle artemo, la guarda, vanno attenta a me, te elenco, se le due terre, vuole figlio, le demà, se dove signore me, quella delle sali. Sì, sì, infatti adesso è finito il Cantastorie e ascoltiamo in sottofondo i canti delle saline. La difficoltà della trascrizione. Certo, è impossibile. Quando poc'anzi il professor Carpitella accennava ad Alberto, ovviamente faceva riferimento al professor Alberto Mario Cirese, che è qui con noi e che ringrazio per essere qui con noi oggi, e che insegna antropologia culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Roma. Tra i suoi volumi più importanti vanno almeno ricordati e citati Cultura egemonica e culture subalterne del 1973, Intellettuali, folklore, Istinto di classe del 74, fino a Ragioni metriche, che ha pubblicato per Sellerio quest'anno. Il professor Carpitella stava sollecitando Alberto Cirese a commentare e a dire qualcosa credo sul P3 o su questi rapporti. Sul P3, poi veramente no, lo dico sul serio, sì, perché Alberto in questo senso è veramente rappresentativo dei rapporti dell'antropologia e anche i fatti musicali, quindi è veramente... Tanto sotto noi continuiamo a ascoltare questi canti, che in realtà non sono più canti delle saline, ma sono i canti La Tornara, sono dei classici della letteratura popolare siciliana. Sì, Diego, che Carpitella ovviamente no, ricordava i rapporti frequenti miei personali con l'etnomusicologia. Sì, mi sono trovato anche a essere il solo non etnomusicologo che abbia scritto una storia degli studi etnomusicologici in Italia. Sì. Un classico. Mi veniva in mente adesso quando dico Carpitella, mi pesa un po' dire Carpitella, parlava della nascita dell'etnomusicologia, si riferiva ovviamente alla etnomusicologia con la tecnica adeguata alla registrazione dei suoni, che non è sicuramente la tecnica del notare a mano sul pentagramma. Ma di etnomusicologia, voglio dire, cioè di interessi per la importanza della musica come fatto culturale e tradizionale, beh, bisogna andare parecchio indietro, insomma, no? Dico, è celebre che all'inizio addirittura degli studi di poesia popolare ci sia Herder, il quale parla dei canti, dico, e trascrive anche musiche, anche se poi magari può prendere per l'Italia delle cantonate grosse, nel senso che prende un canto liturgico e lo scambia per popolare, ma a quel tempo, dico, siamo alla fine del Settecento e dico, canto popolare voleva significare canto nazionale, quindi quella era una melodia che diventava rappresentativa dell'Italia, e lo era in effetti, anche se non degli strati che poi viceversa interessano, diciamo, l'etnomusicologo in quanto tale. E dico, tutto il romanticismo corre, che ne so, incontriamo Mazzini come interessato, o Piero Maroncelli, dico, scrive dallo Spielberg, dove era in prigione con Silvio Pellico, le parole di canzoni, parole che sono calibrate sulle musiche che lui ricordava d'aver sentito bambino e che considerava come l'anima della nazione. Quindi ce n'è, e c'è anche qualche anticipazione rispetto alle date. Max Leopold Wagner in Sardegna incide i primi Rulli Edison, che io vanamente sono andato a ricercare perché da una sua indicazione, che non ho trovato perché distrutti dal tempo, ma lui annotava. E ne avevamo parlato, deve essere prima della prima guerra mondiale, adesso cercavo se qui avevo la indicazione, però nell'altro libro, quello sulla storia degli studi in Sardegna, c'è l'indicazione precisa e la corrispondenza con, non me lo ricordo in questo momento, con non so quale istituto scientifico tedesco alla ricerca di questi cilindri, figuriamoci che fine possano aver fatto. In un mondo nel quale certo erano oggetti importanti, ma non, diciamo, con la presenza culturale che oramai avevano assunto nel mondo di cui Diego poi si è fatto introduttore in Italia. E sicuramente c'erano due atteggiamenti, uno, diciamo così, come di distacco, l'altro di interesse, che però non era accompagnato dalle competenze specifiche e soggettive. Voglio dire che per trascrivere le parole di un canto popolare basta quello che abbiamo imparato alle elementari. Ma sì, alle elementari noi siamo analfamusici, come spesso dice Diego Carpitella, non tanto per l'orecchio quanto per la capacità di trasferire, di avere i corrispondenti visivi dei suoni, mentre per le parole li abbiamo, e dunque si possono stenografare, come faceva Imbriani, i racconti tradizionali, come lui fece, era il suo criterio, che bisognava rispettare alla lettera, e stenografava, dice lui. Poi chi ce la facesse o no, un altro paio di maniche, ma aveva gli strumenti e l'intenzione per farlo, e lo ha fatto, ma non avrebbe potuto stenografare un testo musicale, anche se in Imbriani, per esempio, c'è l'immediato interesse per i gridi, per i gridi napoletani, che sono un fatto, questo sì, assolutamente musicale, voglio dire, in cui chi dà la forma al testo è la musica e non dà una forma provvisoria di esecuzione. Mi rendo conto che ci stiamo addentrando adesso in un argomento sviscereremo però più in là, che è un argomento interessantissimo e fondamentale, che è appunto questo dei rapporti tra il doppio codice verbale e musicale, delle interferenze, delle relazioni che vi sono tra due codici. Io volevo proseguire invece ancora su questa indagine, questa ricognizione sull'etnomusicologia, e vedere passare sul campo colto, sul settore colto. Abbiamo visto all'inizio di trasmissione le influenze della musica popolare in Bartok, nel Bartok colto. Vediamo cosa succedeva in Italia, cioè in che modo, per esempio, la generazione dell'80, che ricordavamo prima col professor Carpitella, quindi degli Alfano, Pizzetti, Respighi, eccetera, raccolse queste indicazioni che venivano dalla riscoperta, queste istanze che venivano appunto dalla riscoperta del folklore, del popolare, o forse sarebbe meglio dire del popolaresco. Ecco, esemplare di questa fascia, la cosiddetta fascia popolaresca, è la Collana di Ricordi. Sì. Collana di Ricordi che va dalla fine dell'Ottocento fino a pochi anni fa, circa 20 anni fa, è una collana di trascrizioni fatte con ricezione orale e con trascrizione manuale, armonizzata naturalmente con criteri soprattutto etnocentrici. Forse se si fa un'eccezione è quella raccolta di Petrassi Nataletti, sì, cui Nataletti fornì delle melodie a Petrassi che erano verso la fuga dal tonale. E queste trascrizioni sono in genere di quello che con un lessico da noi demologi è così popolaresca, nel senso che è una cosa artigianale, urbano, non è contadino, è pastorale. Noi adesso abbiamo una tale paura di dare certe definizioni, siamo cautissimi, però siamo stati in periodi in cui veramente siamo stati a ruota libera, secondo me con entusiasmo e anche con fondamento. E allora questa fascia è una fascia che non ha mai l'impatto di queste caratteristiche strutturali, scale, modo, certo, intonazione, timbro, eccetera. Ma può essere che questo fosse anche effetto dei trascrittori, non di quelli che cantavano. Sì. Non abbiamo purtroppo certi momenti l'evento, perché il documento, perché nel momento della trascrizione è diventata un'altra cosa. Comunque la generazione dell'80, che è stata di tipo nazional popolare, ed ha ubbidito in parte a un'eredità ideologica dell'Unità d'Italia e in parte poi anche agli inizi dell'esperienza nazionalistica fascista, cioè si è soprattutto riferita a questo tipo di fascia mediana, canzoni che erano cantate col mandolino, la chitarra, anche strumenti un po' fuori dalla tradizione contadina, e quindi è già, se possiamo dire, una musica addomesticata. Cioè le fonti di questa identità nazionale italiana che questa generazione voleva fare è su una musica addomesticata. La diversità, appunto, che come era un po' una musica addomesticata, in parte anche quella della musica nazionale norvegese, svedese o altro. I trasgressori sono gli ungheresi e qualcuno del gruppo dei Cinque, Tumusoski, anche se è difficile certe volte quando si sente Tchaikovsky pensare che non è russo, insomma, questo non è... Darei un esempio adesso di musica addomesticata, come dice Carpitella, in realtà appunto del filtro che viene operato dai musicisti dei primi, appunto della fine dell'Ottocento e quindi della generazione dell'Ottanta, nei confronti di questa riscoperta del popolare, del popolaresco, come viene rivissuto. Ascoltando di Pizzetti, I Pastori, per voce e orchestra, un lavoro del 1908 su testo di D'Annunzio, soprano Adriana Martino, l'Orchestra Sinfonica della Rai Torino è diretta dallo stesso Pizzetti in una registrazione del 1955. Rimangono i cuori esuli a conforto. Erano i Pastori di Pizzetti per voce e orchestra del 1908 su testo di D'Annunzio, che abbiamo ascoltato l'interpretazione del soprano Adriana Martino, orchestra sinfonica della Rai Torino, era diretta dallo stesso Pizzetti, una registrazione del 1955. Il professor Ciresti, mentre ascoltavamo il brano, in realtà stava facendo una serie di considerazioni abbastanza preziose che pregherei di riprendere anche in diretta. Rapidissimamente. Per le questioni degli edulcoramenti e addomesticamenti. È un grave problema che negli anni 60, e sono stati gli anni della folk canzone revival, popolare riproposta e riproposta anche contestativamente, e beh, c'era una formula: che facciamo, l'operazione verità o l'operazione bellezza? L'operazione verità significava la riproduzione la più aderente possibile al dato, e l'operazione bellezza significava gli diamo quella capacità di travalicare la condizione, l'occasione, il momento e l'evento, perché, sì, perché tocchi con gli altri. Un problema che voglio dire che era scientifico oltre che politico, culturale e generale, non mi pare allora risolto, è sempre difficile. Il trasportare un oggetto dal suo luogo in un museo significa inchiodarlo nel museo e farlo diventare documento di qualche cosa. Il trasportarlo in uno spettacolo, chiamerò così ogni comunicazione con un pubblico vivo, è un'altra. E come si fa? Ecco, dico, quali sono i codici che bisogna assumere? Poi è legittima in sé l'operazione? Una sola cosa non è legittima, secondo me, e Diego sarà d'accordo, che se alterazioni si introducono si gabellino però per autentica rappresentazione, cioè il falso. Sì, ma questa è una tematica, tra l'altro, che nel fascismo fu abbastanza centrale, in questa riscoperta delle tradizioni popolari. E volevo poi dire in generale, ma prego. Chiudo, no, sì, volevo dire in generale che ogni situazione come quella nazionale italiana che ha fatto appena l'unità e che vuole fare il coro delle regioni, se le regioni si vogliono immettere nel coro bisogna pur che comunichino o accettino certi condizionamenti culturali, diciamo così, ufficiali. Cosa di cui non possiamo far responsabile quella generazione, perché c'è stato anche di peggio con i regimi autoritari. Ma voglio dire che in generale ogni operazione di unificazione nazionale non può non in qualche modo smussare i lineamenti regionali. E allora bisogna che ci decidiamo su nazione, regione, stato unitario oppure federalismo. Ma abbiamo visto che anche laddove c'era federalismo pare che le cose non è che siano andate meglio di come sono andate da noi. Sì, no, volevo soltanto dire questo problema che diceva prima Cirese, sul problema della doppia verità addirittura, è una cosa a cui abbiamo accennato prima di Bartok. Bartok faceva queste trascrizioni ultrafilologiche, di tipo proprio che potremmo dire naturalistico, ma poi contemporaneamente faceva delle edizioni per la divulgazione del canto popolare ungherese, armonizzato non con la banalità della tonalità maggiore e minore, però era un compromesso, perché sennò se si rimaneva a quelle trascrizioni, a quelle registrazioni, non poteva circolare la mentalità. E questo problema della doppia verità, delle pluriverità a proposito del sapere, della trasmissione del sapere, della divulgazione del sapere, naturalmente per il canto si presenta in maniera irruente. Questo è una toglia che si possa studiare, però come dici... Come presidente della cinematografia scientifica, poi sai benissimo che c'è la cinematografia scientifica e il film etnografico, che hanno esigenze completamente diverse. Lo abbiamo anche, se vogliamo prendere fiabe, ve le diamo nella trascrizione fonetica del dialetto o anche sul nastro, non si riesce a seguire il racconto. Come si dovrà fare? Voglio dire che allora, piuttosto che urlare contro, si tratta di vedere se abbiamo categorizzato bene i piani e siamo certi di star facendo quel che dobbiamo fare su ciascuno dei piani, insomma. Certo. Io arriverei adesso ai rapporti che il fascismo ebbe rispetto alle tradizioni popolari. Una delle verità della trasmissione del sapere popolare. Infatti, in questo senso. Verità, tra virgolette, una dei modi. Sì. Certo, furono rapporti abbastanza ambigui che ebbe nei confronti delle tradizioni popolari e il rapporto anche verso l'arte in generale. Ecco, rapporti appunto tutt'altro che chiari, o forse si potrebbe dire chiari per il fine ultimo, o forse se vogliamo primario, cioè l'acquisire consenso e appunto contraddittori per i modi in cui questa riscoperta del folklore e del popolare avvenne. A questo punto vorrei far leggere al nostro attore Gianni Bersanetti un breve riassunto che è inserito negli atti del quarto convegno nazionale d'arti e tradizioni popolari che si tenne a Venezia nel 1940. L'intervento era di Giovanni Crocioni, su cui diremo due parole tra poco quando faremo seguire, senza soluzione di continuità, a questa breve lettura, a questo breve riassunto, un intervento che abbiamo registrato dello storico Mario Isnenghi. Ecco, possiamo leggere il brano che porta il titolo abbastanza significativo di Le tradizioni popolari e la razza. Osservando a scopo essenzialmente pedagogico e nel supremo interesse della razza quel cumulo enorme di usi e costumi, di credenze, pregiudizi e superstizioni, di canti, leggende, proverbi e minori forme letterarie e di molteplici manifestazioni d'arte, chiamato tradizione popolare, che gli studiosi vengono persistentemente indagando a scopo scientifico e culturale, raccogliendone e illustrandone le singole manifestazioni, l'autore rileva che esso si presenta nel rispetto pratico e morale diviso nettamente in due parti. L'una utile, bella, attraente, lodevole, al tutto degna di resistere e perdurare. L'altra né utile né bella, talora anzi turpe e dannosa, ormai in aperto contrasto con la scienza e con la morale, riprovevole e degna di scomparire. Ritiene di conseguenza che talune tradizioni popolari meritano di essere conservate, ma che molte altre debbano essere estirpate se si mira veramente alla purificazione, alla elevazione, alla tutela della nostra intera razza, che non potranno essere effettivamente conseguite se non sia stata prima mutata e quasi direi rovesciata l'attuale mentalità dei nostri volghi, sbaragliata e sbandita la nefasta superstizione, la quale germina e persiste in tutte le condizioni di vita, agricola o pastorale, industriale o artigiana, commerciale o marinara. Ecco, questo era un riassunto inserito negli atti del IV Convegno Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari che si tenne a Venezia nel 1940. Riassunto, dicevo, dell'intervento di Giovanni Crocioni. Giovanni Crocioni morì nel 1954 e fu un sostenitore della necessità di un'autonomia culturale e politica delle regioni e della importanza della cultura popolare come base per lo studio delle discipline tradizionali, e in tal senso ritenne fondamentale appunto lo studio del folklore. Tra l'altro il nome di Giovanni Crocioni apre il primo degli scritti sul folklore di Gramsci riguardo alla critica che Crocioni fece nel 1928 nel suo volume Problemi fondamentali del folklore al metodo di ripartizione del materiale folclorico proposto dal P3. Ma è in linea il professor Mario Isnenghi, che è storico e italianista, docente di storia contemporanea a Torino, studioso della cultura del Novecento, e autore di testi quali Il mito della Grande Guerra, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, e recentemente pubblicato da Mondadori, Le guerre degli italiani. Ecco, professore, credo che questa lettura che lei ha ascoltato possa offrire lo spunto per tracciare un quadro, per fare alcune considerazioni riguardo la valutazione che durante il ventennio si ebbe delle tradizioni popolari. Sì, la prima cosa che si nota, che l'ascoltatore certamente avrà notato, è il riferimento razziale, anzi razzista, che incattivisce e inasprisce questa citazione e la rende più gradevole ai nostri orecchi. La presentazione poi del relatore invece può consentire giudizi differenti. L'autonomia della cultura su base regionale, su base popolare, questo è un tema su cui si può discutere più liberamente, è chiaro. Mi pare che possa essere una citazione interessante per partire andando all'indietro, visto che partiamo dal 1940 e appunto ci sono appena state le leggi razziste. Sta per esserci la guerra, tutto questo definisce un quadro, ma il problema, anche per lo stesso Crocioni, non nasceva in quel 1940, esisteva e lo andava studiando lui ed altri da vari anni. Andando indietro, io credo che dobbiamo partire dalla nozione, da quella che io chiamo la cultura del fascio. Sono stati i linguisti, in modo particolare gli storici della lingua, che da diversi anni sono applicati a studiare la lingua fascista, a farmi riflettere sulla parola fondante del fascismo, la parola fascio. Credo che questi studi degli storici della lingua non siano stati sufficientemente recepiti e che siano ancora molto attivi e molto interessanti per tutti gli studiosi. Fascio, a che cosa si deve far pensare il fascio? Credo che sia utile riflettere su questo. Certo. Fascio ci fa pensare a qualche cosa di molto stretto e costretto insieme, reso unito, ma a partire da una diversità. Il fascio ci dà contemporaneamente la diversità e l'unità. Allora, fin dalle origini, fin dai tempi addirittura dei fasci interventisti, quindi prima ancora dei fasci fascisti, c'è questa idea tipica, io credo, del fascismo di stringere coattivamente insieme una diversità di posizioni. Di posizioni, di matrice, di tendenze culturali ed anche politiche. Ecco, la molteplicità di punti di partenza, di punti di innesco di quello che chiamiamo fascismo, c'è in fondo fin dalla parola originaria e che definisce l'essenza stessa, fin dall'autodenominazione del fascio. Ecco, credo che queste considerazioni d'ordine generale che si potrebbero continuare, sì, possono essere molto utili anche per riflettere sul rapporto tra fascismo e culture popolari, regionalità, sì, sì, e così via. Ecco, professore, è dalla fine più o meno degli anni 20 che l'idea si afferma l'idea di un ritorno alle tradizioni popolari. E tra le organizzazioni di massa del fascismo, l'Opera Nazionale dopo lavoro era diventata la principale esaltatrice dei valori popolari. E tra l'altro il termine cultura popolare, ecco, vorrei ci soffermassimo forse un momento su questo termine. Cultura popolare era adottato negli anni 20 dai programmatori appunto dell'Opera Nazionale dopo lavoro per designare svaghi culturali moderni, e finì per essere identificato almeno fino al 35-36 e forse anche oltre con le tradizioni popolari. Certo, dal punto di vista istituzionale la fine degli anni 20 e poi tutti gli anni 30 costruiscono il quadro di riferimento, il quadro organizzativo per un'azione, non soltanto per una riflessione rispetto alla continuazione, allo sviluppo, al potenziamento, all'uso delle culture popolari, il dopolavoro e tutto ciò che significa rispetto al controllo delle giovani e non giovani generazioni è da tenere presente. Io non credo che l'interesse alle culture popolari nasca solamente alla fine degli anni 20 per il fascismo, credo che parta già prima e soltanto a un certo punto riesca a costruirsi degli strumenti per intervenire, e credo che si mantenga anche rispetto al rapporto con le culture popolari questa idea della cultura del fascio, nel senso che ci sono sicuramente gli di massa del fascismo, l'Opera Nazionale dopo lavoro era diventata la principale esaltatrice dei valori popolari. E tra l'altro il termine cultura popolare, ecco, vorrei ci soffermassimo forse un momento su questo termine. Cultura popolare era adottato negli anni 20 dai programmatori appunto dell'Opera Nazionale dopo lavoro per designare svaghi culturali moderni, e finì per essere identificato almeno fino al 35-36 e forse anche oltre con le tradizioni popolari. Certo. Dal punto di vista istituzionale la fine degli anni 20 e poi tutti gli anni 30 costruiscono il quadro di riferimento, il quadro organizzativo per un'azione, non soltanto per una riflessione rispetto alla continuazione, allo sviluppo, al potenziamento, all'uso delle culture popolari, il dopolavoro e tutto ciò che significa rispetto al controllo delle giovani e non giovani generazioni è da tenere presente. Io non credo che l'interesse alle culture popolari nasca solamente alla fine degli anni 20 per il fascismo, credo che parta già prima e soltanto a un certo punto riesca a costruirsi degli strumenti per intervenire, e credo che si mantenga anche rispetto al rapporto con le culture popolari questa idea della cultura del fascio, nel senso che ci sono sicuramente gli estimatori della vitalità delle culture popolari, e qui naturalmente ci dobbiamo mettere gli studiosi del folklore, sì, che difendono anche naturalmente il loro orto, la loro ragion d'essere da un punto di vista culturale, e dall'altra ci sono viceversa quelli, e nella citazione a cui siamo partiti c'è questo riferimento, che sono molto più preoccupati del momento dell'unità politico-culturale dello Stato e molto meno interessati o addirittura diffidenti e preoccupati rispetto alla molteplicità, alla pluralità delle radici. Allora, il momento turistico-culturale, no? Il momento dei vari pali, del recupero, della costruzione, delle varie feste cosiddette popolari, è un tentativo che si dà in molti luoghi, ma in modo particolare in Toscana, per mettere d'accordo un po' tutti. Sì. C'è l'intervento organizzativo, politico dello Stato e delle sue diverse articolazioni per raccogliere, recuperare, dare un senso anche attuale, attualizzare politicamente quelle che vengono presentate come tradizioni popolari, tradizioni anche inventate, come ci dice. Certo. Suggeriscono oggi certi studi, recuperate veridicamente dal passato certe volte, ma altre volte si tratta di una lettura orientata e strumentale del passato, fino al punto delle vere e proprie invenzioni da azienda turismo e soggiorno di tutta una serie di feste carnevalesche dubbie. Ecco, questo è un momento di unificazione tra l'intervento dirigista, no? dei programmatori, teniamo presente che c'è niente meno che un Alessandro Pavolini, certo. dietro molte di queste feste, di questi recuperi, e il momento di una talvolta anche sincera immedesimazione popolare di base. Questa questione della cultura del fascio, no? Dell'unità e della diversità, ci può permettere di riferirci non secondo la categoria della semplice confusione, anche a quelle situazioni contraddittorie di solito esemplificate attraverso l'antitesi strapaese e stracittà. Ecco, mi sembra che sia un'analogia che si può fare. Dentro alla citazione da cui siamo partiti c'è sia la valorizzazione sia la diffidenza rispetto alle culture popolari. Ma questo stato di contraddizione percorre tutto intero il fascismo, l'organizzazione culturale del fascismo, la cultura fascista. Certo, in effetti anche le spiegazioni sulle autentiche funzioni educative delle tradizioni popolari potrebbe appunto spiegare anche quella contraddizione tra arcaismo e irrazionalità della usanza popolare e il concetto di progresso civile che era generalmente accettato da un'altra parte. C'è un momento statalista nel fascismo che può ritenere di poter rifondare, oggi potremmo dire, sulla base dell'autonomia della politica, qualunque cosa. E c'è una dimensione programmatoria e dirigista del fascismo che ritiene di doversi correlare molto di più a situazioni date e dunque recuperarle, valorizzarle, interpretarle, ridefinirle, ricomporle all'interno di un quadro politico soddisfacente, ma insomma non spegnerle. C'è insomma un populismo fascista e dunque c'è un'attenzione anche al folklore, anche se gli studiosi di folklore hanno sempre dovuto appunto guardarsi, difendere le loro aree e i loro interessi dalle diffidenze che pure c'erano all'interno del fascismo. Insomma, ormai abbiamo imparato anche da tutta una serie di studi anche su altri piani che esistono i fascismi al plurale. Dentro al fascismo ci sono diversità di vedute anche rispetto alla possibilità di ridefinire, riutilizzare e fascistizzare le culture popolari. Io penso che la nozione cultura del fascio ci faccia fare un passo più in là della accettazione ormai diffusa dell'idea che sono esistiti i fascismi e non solamente il fascismo. Intanto ringrazio il professor Mario Snenghi per questo intervento. Ricordo agli ascoltatori che siete all'ascolto di Antologia, che sono le 16:18 di domenica 7 gennaio. Il professor Cirese, che è qui con noi insieme al professor Carpitella, e ascoltando questa registrazione, perché di registrazione si trattava, realizzata qualche giorno fa, del professor Snenghi, un po' dissentiva per qualche aspetto forse, ma più che altro credo volesse aggiungere qualcosa. No, non sì, voglio dire, ci sono altre questioni sulle quali si poteva discutere, ma non è questo, non è questo il luogo, no. Era il punto, viceversa, che mi sembrava interessante, era questo duplice atteggiamento, no, di diffidenza e di tentativo di recupero e di inglobamento. E qui vorrei aggiungere qualche cosa. Di fatti, o di atteggiamenti e di problemi, mi pare che il professor Snenghi l'abbia accennato, che erano pregressi rispetto al diciamo regime politico sotto il quale si trovavano a giacere. In questa pagina di Crocioni, a parte l'impiego del termine razza, che nel 40 ovviamente diventa significativo, certo. Non lo era però nel 20, quando, non so, in Molise o in Abruzzo si parlava di razza marsicana o di razza sannitica, intendendo con razza semplicemente stirpe. Voglio dire, è chiaro che diventa diverso, cioè, nel momento storico. Ecco, ricordiamo nel momento storico. Dopo le leggi razziali, appunto. Sì, sì, però. No, per questo sto dicendo, sì, nel momento storico diventa significativo che uno aggrappi, diciamo adesso in un senso ovviamente profondamente diverso, quello che viceversa era nella tradizione, diciamo così, colloquiale. Precedente. Ma quel che volevo dire è che il problema che Crocioni qui pone è lo stesso problema che aveva P3, il quale da una parte si esaltava per la bellezza e dall'altra non poteva non scandalizzarsi per la superstizione, e che è allora un dramma intrinseco intrinseco alla disciplina stessa. Zeno Zanetti, che fa il primo documentatore della medicina popolare umbra, con amore e contemporaneamente però è quello che vuole introdurre i mezzi nuovi di cura nelle campagne. E questo problema, bisogna ricordare che Crocioni aveva scritto nel 29 sulle tradizioni popolari, e proprio dallo scritto di Crocioni che Gramsci prende lo spunto per le sue osservazioni. E bisogna andare a vedere cosa dice Gramsci allora per il superamento del folklore nell'educazione. C'è una pagina che andrebbe rimeditata. Voglio dire che, quindi non che non sia d'accordo, voglio dire che però il problema è più lungo e più corposo del tragitto storico che in questo momento stava attraversando con Crocioni. Precedeva, è stato durante e spesso ce lo ritroviamo metodologicamente anche oggi di fronte. Sì, scendiamo allora, professor Capitella, sul versante più prettamente musicale. Sì, volevo però un attimo prima dire una cosa. Alcuni anni fa, circa 18 anni fa, sono stato per caso consulente di una serie di documentari di carattere etnografico dell'Unione Sovietica. E una delle cose interessanti era questo, che cioè tutto quello che riguardava superstizione, medicina popolare, comportamenti di un certo tipo, no. E c'era una grande esaltazione invece del momento estetico, il momento formale. Infatti noi ridevamo, dicevamo, ecco i neocrociani. Scusi se l'interrompo. Qui segnalerei per chi fosse interessato che c'è questo studio, di vari anni fa, di Massimo Squillaciotti e Sandra Puccini, che proprio cerca di ripercorrere almeno certi aspetti della vicenda della demologia nel ventennio tra le due guerre. Allora, fermiamoci ancora su questo ventennio tra le due guerre e scendiamo appunto, come dicevo poc'anzi, sul versante più prettamente musicale. Cosa accadeva? Cioè, come viene rivestuto? Abbiamo visto dal punto di vista colto questa riscoperta del folklore, del popolaresco, sarebbe forse più esatto dire. Ecco, il nome di Francesco Balilla Pratella senz'altro si impone immediatamente come compositore, musicologo romagnolo che aderì al movimento futurista, di cui redassi i manifesti musicali e inserì numerosi spunti popolari, appunto popolareschi, nelle sue composizioni. Ma va ricordato di Pratella, il primo documentario per la storia dell'etnofonia italiana, pubblicato negli anni 40. Sì, vediamo però la sua l'importanza proprio di Pratella. Sì, come l'ha detto, Pratella è stato un musicista nazional futurista, anche se poi futurista lo stato molto meno di quanto non siano stati invece che importanti pittori dello stesso tempo. Certo. In realtà lui si è avvicinato proprio per motivi della razza, della stirpe, all'etnos romagnolo. Poi ha fatto questa summa del documentario per corrispondenza, cioè mandava dei questionari mandati ai maestri eccetera, i quali gli portavano le trascrizioni e lui poi ha mucchiato. Questa d'altra parte era stata già una vena che aveva avuto un musicologo italiano subito dopo la prima guerra mondiale, Fausto Torrefranca, il quale aveva mandato appunto un questionario attraverso aveva mandato i questionari ai maestri. Balilla Pratella curava soprattutto questa veste estetica, a meno che lui presumeva estetica, cioè di queste melodie trascritte approssimativamente, non da lui, proprio da altri, e poi creava uno stile che è proprio lo stile tipico dei complessi folclorici. Stiamo ascoltando un esempio in sottofondo. Ecco, è che lo stile non è che è uno stile che si trova in altre cose, è proprio tipico dei complessi folclorici. È come quando Adorno parla dello Jugendstil, che è proprio uno stile tipico dei complessi folclorici, dove tutto diventa uguale, al di fuori del profilo melodico, che non è poi il fatto più determinante, diventa praticamente, sembra sempre di sentire lo stesso gruppo. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo, adesso andiamo lentamente in primo piano, proprio gli Scariolanti, che è un'elaborazione di Balilla Pratella, di un canto proprio romagnolo. Ascoltiamone pochi. Thank you. No, come diceva prima, si parlava prima, come diceva Alberto, a proposito di queste diverse versioni, Iscariolanti, che è questa melodia, durante il revival degli anni 60, seconda metà degli anni 60, prima metà degli anni 70, il nuovo canzoniere italiano, i Dischi del Sole, l'altro spettacolo con Dario hanno Fo, fatto delle registrazioni, diciamo così, invece direttamente degli Iscariolanti, sì, nella versione, diciamo così, virgolette, originale. C'era questo contrasto. Quella che tu chiami ogni tanto Ruspante. Ruspante, non lo volevo dire, no, perché giocavamo in casa alla Rai con Arbore. Allora sì. Ah sì, è vero. Non avevo pensato che hanno... me l'hai fatto dire. Aloni semantici diversi. Sì, proprio, c'è il caso di dire... Allora è diversa, invece era tutto edulcorato, perché vale soprattutto l'estetica. Il documentario, diceva prima anche Alberto, cinematografico italiano degli anni 30 e 40, ma che si vede un contadino, si vede tutto ricostruito, edulcorato. Sì. Ma anche il profano si accorge immediatamente, sì, cioè della versione, sì, falsa, sì, di, cioè, sì, di questa versione è falsa. Riascoltiamola un secondo in primo piano. Iscariolanti, appunto, un tema popolare romagnolo adattato, malamente adattato, vero professor Carminella, da Balilla Pratella. Procediamo, andiamo avanti. Ecco, negli anni 40, e per la precisione nel 48, nasce a Roma il Centro di Studi per la Musica Popolare, per opera essenzialmente di Giorgio Nataletti, che riuscì a coinvolgere l'Accademia di Santa Cecilia e successivamente anche la RAI. E la nascita del centro rappresenta il primo punto saldo, il primo punto fermo in Italia sulle ricerche etnomusicologiche. Attraverso la documentazione del Centro di Studi Musica Popolare, almeno quella che va dal 48 fino al 62, mi sembra sia chiara quella vena meridionalistica a cui accennavamo prima. Ecco, parliamo del centro e da quale necessità, appunto, nacque questo centro che venne diretto, ideato e diretto all'inizio da Nataletti. Ecco, prima abbiamo detto che gli studi sulla musica di tradizione orale, sulla musica di tradizione popolare, sulla musica contadina, sulla musica folclorica, sulla musica etnomusicologica, ha diverse date di nascita in Italia, e questa è considerata una data di nascita importante perché... soprattutto promosso da Nataletti, che ha lavorato moltissimo, è stato della radio, ha lavorato alla radio per molto tempo, sempre anzi, e ebbe un'idea estremamente interessante, e quello cioè di, mi sembra che in quel periodo cominciasse alla radio, non è che io fossi proprio un ragazzino, però non frequentavo molto, cominciassero nel dopoguerra delle radiosquadre. Radiosquadre erano delle squadre che con le macchine attrezzate andavano nei paesi, riunivano le persone intorno, cosa che si poteva fare allora, e invitava alcuni a cantare. Allora, in mezzo alla canzonetta, alla canzone artigiana, alla romanza, in mezzo si intersecavano invece dei brani che erano di tradizione contadina, così. Allora, quelle registrazioni venivano salvate. È cominciato, diciamo così, in questo senso, è cominciato ad accumularsi del materiale. Poi invece, sistematicamente, nel momento in cui entrò in gioco anche l'Accademia di Santa Cecilia, questa registrazione fu più sistematica e metodica, e piano piano dal 48 sì che avviene un fatto paradossale. Cioè, io prima ho detto, l'Italia è il paese dove il fonografo Edison e i cilindri di cera hanno fatto i fini che hanno fatto in Somalia sciogliendosi. Oggi come oggi la qualità della registrazione di documenti di tradizione orale italiana è una delle prime che ci siano in Europa. Uno strano contraddizione, da una parte così e poi così. Ed è naturalmente una tappa imprescindibile, perché gli studi non sarebbero potuti proseguire senza questa documentazione. Quindi è fatto di grande rilievo culturale. Ha cominciato nel 48 con le regioni classiche, Sicilia, Sardegna, Abruzzo. Ma subito comincia Sabina. Io sono 51, comincio col centro. Sì. con 51. Diamo le coordinate allora, sì, di questa iniziativa. 51, non mi pensavo che era 1951, no, è in Sabina, nell'alta Sabina. Come lamenti funebri, io andavo cercando, ecco, andavo cercando lamenti funebri, mi ricordo, e arrivò questa telefonata di Nataletti mentre, che dice bisogna organizzare, eccetera. In due giorni, appunto, venne, come si chiamano le squadre? Radio squadra. Arrivava il camion e facemmo questa registrazione in una giornata velocissima, tra su Amatrice, Mascioni, le pianto funebre di, certo, di Mascioni, di cui che tu hai scritto, lì. Sì, poi dopo, sì. Allora mi occupavo di questo tema, ma anche al solito, come è chiaro, insomma, quella che poi hai registrato tu con l'Omax, le zampogne, ma certo. Dico, io ero, ma tu così, proprio un'orecchia, io mi occupavo di quella cosa particolare, ma poi anche in Sabina, vicino Rieti, la Moresca di Contigliano, che è una danza armata, no, diciamo di antichissima origine, anche se lì allignata forse sotto a metà dell'Ottocento, l'abbiamo registrata lì, così come poi quelle che abbiamo fatto insieme nel Molise, Diego, gli slavi molisani, la pagliara molisana di maggio, oppure quella del 59 che mi è stata centrale, devo dire, per una registrazione che ho avuto una mezza promessa che si sentirà, e cioè a dire fiore, fiore, fiore, certo. E fu fatta con Nataletti, che era questo... Sì. Questo entusiasta, al quale poi si poneva i problemi che bisognava forse, ti ricordi, ci voleva uno spirito critico, no? Sì, nella raccolta, lui diceva ma non abbiamo niente, prendiamo quello che troviamo, e De Martino ha cominciato anche lui registrazioni fatte per il Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare. In questo senso Nataletti proprio è stato il sostenitore, scusa di interrompere, di una urgent antropologia. Sì, sì, proprio. Cioè lui diceva, scusate, muoviamoci adesso che abbiamo il mezzo e sfruttiamolo fino a che è possibile. In fondo Nataletti fu un organizzatore, uno studioso, un divulgatore. Divulgatore anche alla radio moltissimo. Appunto, basterebbe appunto ricordare anche per il Centro di Studio di Musica Popolare hanno fatto registrazioni appunto Lomax, Schneider, De Martino, Levi. Ci siamo passati tutti. Era siamo un punto passati obbligato. Tutti di lì. Cirei, STB, con l'Air, con la C. Certo. E quanti altri. Ecco, Nataletti come studioso appartiene alla generazione dei pionieri, cioè quelli che negli anni 30 trascrivevano in realtà i brani ascoltati, quindi in questo con Colacci, che è una generazione analoga, e con Petrassi. Allora forse a questo punto potremmo ascoltare una testimonianza di Goffredo Petrassi. Vogliamo ricordare che appunto Petrassi con Nataletti negli anni 30, nella famosa collana Ricordi, che ricordava appunto Carpitella poco fa. Era una ricerca appunto nel Lazio, dove appunto sia Petrassi che Nataletti erano Zagarolo, nati. Avevano le radici. Zagarolo, Petrassi e Gallicano. Sì. Infatti in questo nastro Goffredo Petrassi ricorda Nataletti e le origini comuni. Giorgio Nataletti è stato un amico della mia prima gioventù. Cosa si intende per prima, seconda o terza non lo so, ma comunque noi ci siamo conosciuti diciamo verso i 23 anni. Lui era studente al Conservatorio di Santa Cecilia, studiava la viola e quindi si tratteneva là in un negozio dove io avevo alcune faccende da fare, e quindi è cominciato così. Poi dopo siamo stati allievi di armonia, contrappunto, eccetera, dello stesso insegnante che era Vincenzo Di Donato. Anche lui studiava con me armonia, contrappunto, eccetera. E quindi la nostra amicizia era già molto, molto stretta, sia sul piano musicale sia sul piano umano. Ci frequentavamo perché avevamo o gli stessi interessi, ma insomma lo stesso modo di vivere, di comportarsi, insomma sono quegli incontri di somiglianza che si legano subito. Poi c'era un'altra ragione molto, molto più importante dal punto di vista musicale, che eravamo tutti e due, per quanto lui fosse nato a Roma, credo, però aveva il padre che aveva delle proprietà a Gallicano, Gallicano, paese vicino a Roma, ed io ero di Zagarolo, quindi a pochi chilometri. Quindi ci siamo scoperti queste radici quasi comuni, nel senso di radici paesane, agricole, rurali. E poi questo coincideva con un momento in cui in Italia si era pubblicato tutta una serie di volumi sui canti popolari italiani, edili da ricordi, il cui capostipite, molto illustre e del resto molto ben fatto anche come esempio, erano i canti siciliani di Favara, raccolti da Favara, che era stata un'operazione molto utile, che ha portato delle conseguenze molto positive. Adesso non posso dire filologicamente come erano i canti popolari raccolti da Favara, la lezione autentica, però certo che contribuirono in modo molto vistoso a propagandare l'uso e la conoscenza di tutto questo patrimonio. E in questa raccolta, nelle raccolte di canti degli italiani, mancava i canti del Lazio in generale. Allora Nateretti già si cominciava a interessare per conto proprio a una etnomusicologia così molto primitiva, molto personale e ancora senza un pensiero di sbocco futuro, di studio, di altro. Comunque ci trovammo insieme e allora decidemmo appunto di fare una raccolta di canti della campagna romana, proprio per inserirli poi in questa collana che andava pubblicando i ricordi. E decidemmo di farli. In che modo? Eravamo ancora molto primitivi, non sapevamo l'uso del grammofono, non conoscevamo l'esperienza di Bartok, non conoscevamo niente di tutto questo. Sia Nataletti conosceva qualche cosa più di me, ma io assolutamente niente. Però avevamo tutti e due un patrimonio di canti popolari che avevamo ascoltato da ragazzi, da allora, dai nostri parenti. E io ne avevo ascoltato molti da mia madre nel paese a Zagarolo e lui a Gallicano. Allora ci mettemmo in cammino per raccogliere questo patrimonio. E che cosa consistiva questo cammino? Molto semplicemente, la domenica Nataletti, che aveva molti più rapporti di me con Gallicano e con questi paesi, i contadini, raccoglieva un gruppo di contadini, donne e uomini, e là, a forza di fiaschi di vino, noi li facevamo cantare, e loro cantavano e noi trascrivevamo. Naturalmente a me era riservato il compito più duro, quello di trascrivere la musica. Duro perché? Semplicemente perché naturalmente non c'è una scenografia per la musica, anche perché poi, necessariamente dovendo far ripetere continuamente la stessa cosa, venivano sempre variati, e io mi disperavo, perché qual era la lezione giusta non riuscivo a capire, ma comunque ci sono incerti. Quindi il nostro non è stato tanto un lavoro di filologia etnomusicale, quanto proprio un interesse così molto, molto sensibile, istintivo, di avvicinarsi e appropriarsi di questo patrimonio. Insomma, facemmo la raccolta. Lui ed io ci dividemmo il compito di mettere la parte pianistica, no? E allora rimandammo a Ricordi non li accettò subito, perché trovò che l'accompagnamento pianistico era troppo difficile, quindi lo semplificammo. In fondo uscirono questi canti della campagna romana. E contemporaneamente a questo, per dire il panorama generale di quel periodo che si interessava ai canti popolari, c'era anche la Jenny Sadero, che forse qualcuno ricorderà. Era una cantante veneziana molto vivace di spirito, la quale aveva raccolto una serie di canti popolari, l'aveva elaborati lei. Filologicamente non si poteva parlare di niente, perché chissà quanto fossero lontani da una serietà scientifica, però erano molto gradevoli e li andava diffondendo in tutta l'Italia. Insomma, questo era l'ambiente nel quale noi abbiamo fatto i canti della campagna romana. Poi naturalmente le nostre strade con Nataletti sono diventate diverse. Io ho fatto un cammino, lui ha fatto un altro. Poi no, ci siamo ripresi e abbiamo ripreso i contatti dopo parecchio tempo, però non ci siamo mai abbandonati. Abbiamo sempre mantenuto questo rapporto di un'amicizia così molto fraterna, molto stretta, molto intensa. E poi io osservavo un po' da lontano i suoi progressi nel campo dell'etnomusicologia, e quindi è stato di una tenacia straordinaria, perché era curioso, insisteva su certe difficoltà che incontrava, e poi aveva soprattutto questo amore della conoscenza e dell'avventura di questo mondo così straordinario. Lui adesso, non so, poi col passare del tempo si sarà anche attrezzato scientificamente, come è giusto e come del resto ha dimostrato nel futuro, ma così già da allora aveva questo senso vivissimo di questo patrimonio straordinario. E poi di Nataletti poi si è occupato anche di molte cose, finalmente è riuscito, ma questa è storia che si sa, e Carpitella poi la sa ancora meglio di me, è riuscito a coinvolgere la RAI e l'Accademia di Santa Cecilia, in modo che ha dato luogo poi all'Istituto per la Musica Popolare Italiana, che è stata una cosa di una grande importanza, la prima istituzione diciamo ufficiale, perché c'erano già gli studiosi di Martino e degli altri, anche in Sardegna c'erano degli studiosi come Favara in Sicilia, però non c'era un istituto italiano ufficiale che raccogliesse tutte le varie esperienze che si facevano. E Nataletti, con la sua pervicacia, dirò, no? E col suo amore, la sua passione, riuscì proprio a creare questo istituto. E poi naturalmente sopraggiunse Carpitella, e qui il discorso si allarga in un modo molto vistoso, perché l'apporto di Carpitella è stato determinante per allargare e diffondere e dare una vita molto consistente a questa disciplina. Ecco, ringraziamo il maestro Petrassi, che appunto ricordava Giorgio Nataletti. No, ringrazio anch'io il maestro Petrassi moltissimo. È una delle cose che più mi colpì di quella sua raccolta con Nataletti, era questo criterio di armonizzazione, dove prevaleva questo andamento per quarte, e questa prevalenza per quarte era già una fuga dalla tonalità temperata del maggiore e minore. E non so se poi le difficoltà che trovò con Ricordi, che trovarono Petrassi e Nataletti, era dovuto a questo. Il maestro dice di difficoltà di accompagnamento, ma senza dubbio l'originalità era l'armonizzazione con criteri fuori dall'alea del maggiore e minore. Ecco. Adesso dovremmo avere anche una testimonianza proprio di Giorgio Nataletti, cioè Giorgio Nataletti che parla nel 1972, poche settimane prima della morte, ricordando appunto la nascita del Centro di Studi della Musica Popolare. Era una trasmissione a cura di Gianfilippo De Rossi. Ascoltiamo il breve documento. Oggi compiono 25 anni che il centro è stato creato. È stato creato dalla Radio Radiovisione Italiana e dall'Accademia di Santa Cecilia, appunto per porre un riparo a quello che era avvenuto, ossia che gli studi della, chiamiamola, etnofonia, della etnomusicologia, dei linguaggi musicali tradizionali orali d'Italia erano stati quasi completamente trascurati, o se lo erano in un certo senso dal lato tecnico, lo erano ancora di più dal lato documentario. In questi 25 anni che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un centinaio e mezzo di rilevazioni sul campo, con una registrazione di circa 20.000 documenti. Certo, non abbiamo fatto tutta l'area italiana, molte regioni sono state superficialmente esplorate, alcune non lo sono quasi per niente, quindi il lavoro da fare ancora è moltissimo, ma quello che noi abbiamo fatto, ossia il punto a cui è il lavoro del centro, è abbastanza soddisfacente. Ecco, nel 50-55 Carpitella ha fatto una spedizione nel Lazio con Nataletti, sì. Vero? Sì, perché ero così, dato che il Lazio era stata una delle regioni privilegiate, chiesi a Nataletti se potevamo fare questa ricerca, e fu nella zona verso Fondi, tutto in retroterra così, Troviamo soprattutto dei suonatori, mentre il repertorio vocale fu più limitato quella volta. E però questa era stata una delle le registrazioni che aveva fatto Nataletti nel Lazio, in Abruzzo. In Abruzzo sì. soprattutto quelli dell'Abruzzo sono di una polivocalità, sono dei documenti unici che sono stati proprio un punto di riferimento per gli ulteriori studi sulla polivocalità di tradizione popolare in Italia. Ecco, allora se la regia ci dà assenso dovremmo ascoltare uno di questi brani raccolti proprio da Nataletti. Si tratta di un canto tradizionale abruzzese. Sì, proprio uno dei primi delle raccolte. Ecco, era un canto tradizionale abruzzese raccolto da Nataletti. Sì, uno dei documenti più interessanti e importanti registrati nell'ambito dell'attività del Centro di Museo Popolare. E, poi Nataletti si era occupato anche degli zingari sì. dell'Abruzzo. Mi ricordo che insieme siamo andati, oltre che nel Lazio, siamo andati a Pomezia, dove c'era un convegno degli zingari, e vi furono diverse registrazioni anche, ma quello anche, purtroppo, il progetto di Nataletti era quello di fare tutti gli zingari in Italia delle diverse regioni, sia della Calabria che della Valle Padana. Ma come si riusciva a vincere questa diffidenza anche da parte degli zingari? No? Complicato. Quella volta di Pomezia il clima era un po' stemperato perché c'erano zingari ricchi e poveri. C'erano quelli poverissimi a Calabria e poi c'erano invece questi violinisti di musica leggera francese. E poi era un'occasione singolare, me lo ricordo ancora, perché pioveva moltissimo. E poi ci fu questa visita di Paolo VI. Allora in questo clima un po' le diffidenze con quelli che suonavano si temperarono, però appena finì questo momento di circostanza diventarono un'altra volta rapporti duri. Bene, e questa ricerca nel Lazio, che ricordavamo poc'anzi con Nataletti di Carpitella, non è stata ovviamente la prima che Carpitella fa in quel decennio che possiamo definire pionieristico, sia proprio per l'etnomusicologia, per la nascita, per le basi dell'etnomusicologia in Italia. Sì, ecco, gli anni 50 e una parte degli anni 60. Infatti. L'anno precedente Carpitella inizia un viaggio con Alan Lomax, che è uno dei più noti etnomusicologi nordamericani. Un viaggio su un pulmino, vero sì, professore? Sì, su Volkswagen, sì. Come nacque l'idea come di questo oggi viaggio? Nacque da un'esigenza proprio di tipo pratica. Lomax era responsabile di una collana di dischi della Colombia che si chiamava World Library of Folk and Ethnic Music e aveva fatto 12 dischi in Irlanda, Africa, non direttamente. Irlanda aveva fatto lui, in Africa aveva fatto Rouget. In Francia l'avevano fatte altre persone eccetera eccetera, per la Jordava l'aveva fatto Lloyd, figuriamoci, e poi approdò in Italia e ascoltò queste registrazioni che erano state fatte in Italia e che erano in parte queste Abruzzo, Sardegna e poi soprattutto alcune registrazioni fatte in Basilicata, e mi propose di fare due dischi insieme di questa collana. Quindi è nata da un'esigenza pratica, cioè di entrare in questa collana. Contemporaneamente poi lui faceva ha fatto un ciclo di trasmissione per la BBC, proprio sulla musica di tradizione popolare italiana, e quindi diciamo così che il finanziamento di questa ricerca si deve parte alla Columbia Records, che metteva a questa collana, e poi queste trasmissioni della BBC, che fece lui, è una trasmissione che curava da solo e che erano naturalmente compensate, e hanno confluito nel poter stare un anno in un polmino e registrare un po' dappertutto. Cioè ci faccia capire come si svolgevano queste ricerche. Indubbiamente però bisogna dire una cosa, sì. È stato un viaggio esplorativo. Ecco. Cioè un viaggio esplorativo significa che proprio la permanenza spesso nei posti, mi dispiace per quello che viene affermato nei classici dell'etnologia, non era di lunga permanenza, anzi spesso era breve, di 2 o 3 giorni, però la situazione allora, anche se eravamo ormai ai confini della deruralizzazione, urbanizzazione, emigrazione e via dicendo, però erano ancora delle situazioni compatte, con un tessuto sociale compatto, che dove si arrivava e si imboccava il sentiero giusto si poteva veramente anche in breve tempo raccogliere i documenti significativi. Quelli, infatti, non è un caso che la maggioranza dei pezzi di questa antologia erano più di circostanze sociali che di circostanze, per esempio, più ristrette, un repertorio più, se si può usare questa parola, privato, nel senso che evidentemente le situazioni di danze, di feste di questua, di befanate, di cori, di polivocali, situazioni di mietitura, eccetera, sono state più facili. Nella somma di questa raccolta, ecco, per esempio, le ninne nanne, beh, non è che siano state moltissime, lamenti funebri. No, 1 o 2 volte siamo riusciti a prendere, perché ci vogliono delle situazioni molto più dissodate, più vicine. Però poi furono utilizzate anche delle documenti, delle ricerche che c'erano prima, per esempio la Sardegna fu una cosa che fu quella fatta da Nataletti, la Lucania fu quella fatta. Cioè è un insieme, fu un'esplorazione di una cosa che si sapeva che ci fosse, cioè lo storico locale, il notaio, il farmacista, il sindaco sapevano che c'erano questa, la maestra naturalmente, però il documento sonoro non c'era, siccome che c'è questo problema che la trascrizione non ti dà il senso, certo. Era una cosa che era nell'aria ma non era documentata in un panorama così ampio. Vorrebbero anche dire che l'esplorazione con l'Omax c'è potuta essere in quanto c'erano i precedenti del centro, certo. Cioè i precedenti, sì. Come sondaggio, sì. Tanto, ma se avete anche utilizzato materiali del, sì, centro, perché Sardegna, nei due dischi sì. La copertina, sì. C'è il cantore della Pagliara di, sì, Fossalto, sì, che avevamo registrato per il centro insieme, perciò, con Diego. Perciò dicevo, alcune cose sono in sottofondo per gli ascoltatori, stiamo ascoltando stornelli. Proprio. Sono questo, uno stornello, siamo a Livorno, sì, e quindi uno stornello toscano. Sì, certo, infatti, no. Sì, sì. Uno stornello toscano, sì. Sì, infatti. Ecco, questa cosa di stornellatori o taverrime, questo era possibile, ma un certo tipo repertorio è più complicato. Ma cantavano spontaneamente, sì, le, sì, persone? Come avveniva? Era una situazione veramente in cui dopo una certa ritrosia, perché non pensavano mai che potesse venire le persone a raccogliere questo tipo di tradizione, in effetti poi si accorgevano, cioè il contatto faceva emergere la coscienza, sì, sì, che, sì, si trattava di un patrimonio importante, e spesso direi che avvenivano anche delle situazioni scostumate. Sì. Situazioni scostumate nel senso che magari così per una cosa qualche volta, anche se preceduti da una lettera, andavamo da un sindaco, ma naturalmente il sindaco spesso era quello che diceva ma no, ma che fate, che prendete queste cose, è inutile. E allora magari passava un usciere o passava un altro contadino, un pecoraro che era venuto al comune per chiedere una domanda, e anche un Netturbino, e noi dopo, mentre parlavamo un sindaco che era il veri importante, invece poi ci rivolgevamo appresso a questo e seguivamo questo, quindi avvenivano dei dialoghi troncati dicendo ah no, aspetta, arrivederci, andavamo verso la pista che ritenevamo più la giusta. Gente ancora si divertiva, sì. Si divertiva anche, sì, voglio dire, quando faceva in tutte sì, queste registrazioni. Un po' era l'avvenimento nel, sì, i paesi non comunicavano, sì, come sì, comunicano, sì, oggi, siamo in periodi pre-televisivi, sì, insomma, no? E allora, quando poi cominciavano a cantare, si cominciavano a divertire, insomma. Era la vecchia storia del cieco che ci voleva un soldo per farlo cominciare, eccetto, sì, per farlo smettere. Era, diciamo, anche umanamente era un momento di rapporto, sì, di rapporto notevolmente importante. E in questo senso la musica aveva dei vantaggi, perché un'esplorazione di questo tipo, che ne so, per le fiabe, per gli aneddoti, per le cose non per si le fiabe fare. L'abbiamo fatta quanti anni dopo? No, dico, la raccolta non era che abbiamo facile fatto per la discoteca di Stasio, sì, eccetera, e siamo 68, 69, 70. Del resto, le fiabe, come diceva Santoli, cioè, 16 noi siamo anni stati dopo la generazione della poesia popolare, voi sarete forse la generazione, sì, delle fiabe. No, questo, infatti, la musica in questo senso aveva un vantaggio, perché tac, scattava questo meccanismo musicale che si formalizzava, sì, immediatamente si innescava un vantaggio, meccanismo di grande socializzazione, sì, molto, sì, socializzante, sì, molto socializzante. Non eravamo poi neanche nella situazione di Brailoio, sì, per cui se uno andava militare tornava, cambiava il repertorio, però ancora c'era una certa continuità di un certo tipo di repertorio, dove tre anni dopo già diventava più complicato, certo. Quando nel 54-55 c'è stata la grande emigrazione, è cominciata una deruralizzazione pesante, era più difficile, forse non si sarebbe neanche potuto fare. Ma queste testimonianze, sia il professor Cirese che Carpitella, mi riportano alla memoria anche le testimonianze di Nuto Revelli, sì, che negli anni 70 appunto ha raccolto. Nuto Revelli è stato anche ospite della nostra trasmissione di antologia e ha raccontato con dovizia di particolari anche la fatica che era necessaria per conquistarsi la fiducia e la confidenza da parte degli intervistati. Sì, ecco. Naturalmente poi le situazioni cambiavano, certo, quando, no, voglio dire, quando c'era un rapporto più organico con, sì, cioè per noi Fossalto è stato andare, vabbè, a casa, perché era quelle persone che conoscevi tu, appunto, erano, sì, parenti, era, amici dei tuoi parenti, quindi mio padre era di lì, era lui che ha ricordato la Pagliara e per questo siamo andati a vederla, e quindi quando entravi in casa, sì, certo, che arrivava come una persona che ti avevano visto da ragazzino piccolo, sì, con tuo padre che era, sì, direttore. Sì. Intanto la regia ci sta portando in Puglia con questo canto alla Carpinese, un canto di Carpino, sì, in provincia, sì, di Foggia, per voce e chitarra battente. Ne ascoltiamo alcune note in primo piano. Per esempio, interessante. Un attimo, professore. No, sì, interessante questo repertorio, per esempio, era ignorato. Sì. Era ignorato dalla fascia artigiana paesana, era solo un repertorio strettamente pastorale, dei pastori. Sono brani che traiamo sempre dai due dischi che sono il frutto di questa, tra virgolette, spedizione del 54 di Lomax, Alan Lomax e Diego Carpitella. Ascoltiamo alcune note in primo piano. In betta li tini doi, pugnali d'argenti, chi ha diritto a chi bello. No cola guardiana porastiva, sembra mattina e sera. Questo invece già è un canto di fascia artigiana urbana o di un certo tipo di paese, già con una romanza, sì, Cambro, e direi questo è lo stile, per esempio, a cui ha attinto Matteo Salvatore, mm-hmm, ecco, questo è il tipo di fascia a cui attinge Matteo Salvatore, piuttosto che una fascia alla Carpinese o altro. Quando parlavamo concretamente di fasce, sì, si intendeva dire questa differenziazione. Questo è chiaro che è una romanza di influenza napoletana con un italiano dialettale. Ecco, professore, come vi procuravate l'ospitalità nei paesi che visitavate con l'Omax? Non esisteva, non esisteva, non avevamo soltanto dei sacchi a pelo, dormivamo così, oppure dentro al pulmino, oppure vicende veramente boccacesche. Non esisteva nessuna intelaiatura. Senta, alla Loma, ma era l'ultima cosa questa, era l'ultima, a cui pensavamo. Un grande spirito di avventura, sì, il senso di questa, dell'importanza, c'era il senso dell'importanza di questa ricerca, sì, che state facendo. Sì. Senta, un senso di esplorazione. Di esplorazione. Alla Lomax è americano. Certo, Texas. Del Texas. Purtroppo non può essere con noi, non siamo riusciti a raggiungerlo neanche telefonicamente. Io ho parlato con lui circa 10 giorni fa, ma dice che andava in vacanza. È andato in vacanza. Ecco, con la lingua come se la cavava la Lomax? Cioè, siamo di fronte anche a dialetti, non soltanto ovviamente in lingua italiana. Lui veniva dall'esperienza della Spagna e io lo prendevo un po' in giro perché dicevo che lui parlava l'itagnolo, perché era un italiano parlato un po' con lo spagnolo, uno spagnolo italianizzante. Esattamente, io dico agli amici messicani per me. Dici così? Itagnolo. Itagnolo, sì. Itagnolo. Sì, ma voglio dire, no. Lo spagnolo è un dialetto italiano, diciamo, o l'italiano è un dialetto spagnolo. No, ma infatti, c'è molta, certo, c'è molta, no, molta ma fida. Infatti è interessante che l'itagnolo assomiglia un po' al veneto. Sì. La coinè linguistica tra gli italiani in Brasile, dove io poi sono stato alcuni anni dopo, la preeminenza è il veneto. Sul bergamasco, sì, diventa la chiave. E l'itagnolo è un po' di questo tipo, però avevo una tale Fiuto, lui quando aveva 14-15 anni aveva fatto queste ricerche col padre, John Lomax, nel Texas e anche tra le case penali. Tanto uno splendido folk singer. E poi ha avuto un'esperienza diretta di folk singer. Quindi allora sono tre generazioni, perché la figlia di Alan Lomax, tre anche lei... Sì, anni, sì, tre generazioni. Tre generazioni. Tanto la regia ci ha portato in Liguria. Sì, questa trallallero. È la partenza, ecco, in trallallero, che è uno stile tradizionale ligure. Di polifonia ligure, questo è proprio della parte della costa. E... Infatti il coro è un affiatato coro di scaricatori del porto di Genova. sempre registrato, ricordo per gli ascoltatori, nel 54 da Alan Lomax e Diego Carpitella. Questa voce acuta, questa femminile, la voce a 7 parti, il canto che si chiama Ubagash. Ascoltiamolo un attimo in primo piano. Questo era la partenza, un canto tipicamente genovese, in trallallero, appunto, che ricordavamo col professor Carpitella, è una tipica forma di canto genovese. Intanto continua la stessa parte del disco di Carpitella dedicata e di Lomax, di Anna Lomax, che stiamo ricordando. Una narrativa. Esatto, questa è una ballata raccolta in provincia di Imperia, la Fontanella. Sì. È una ballata tipica, una tematica europea. Ecco, in questi viaggi, professore, vi fu anche la possibilità di confutare e rettificare alcune convenzioni, per esempio quelle relative alla polifonia vocale in Sicilia e in Sardegna? Immediatamente no, direi che anzi in parte anche noi siamo stati presi dal giro della prevalenza monodica, per esempio, della musica siciliana, al di fuori delle musiche per le confraternite, come quelle per il Venerdì Santo e per la Pasqua. Però da quegli impulsi, da quei documenti che vennero un po' dopo, dal 50, da allora c'è stato un ribaltamento di molte teorie sulla distribuzione degli stili musicali in Italia. Per esempio, questa prevalenza, questo pregiudizio che in Sicilia non ci fosse polivocalità e polifonia è stato completamente superato in questi ultimi 20 anni. Soprattutto le registrazioni fatte hanno dimostrato che c'è una tradizione polivocale e polifonica estremamente importante. E così viceversa invece l'idea che la polifonia fosse assolutamente un fatto settentrionale, no. C'è un repertorio di canzoni monodiche, canzoni di lavoro e altro che dimostravano che, cioè, lì sono stati ribaltati tutto quelli che riguardava alcuni pregiudizi a cui accennava Mila nella sua polemica. Poi da quella documentazione si sono avuti degli sviluppi che hanno fatto cadere alcuni luoghi comuni che si ripetevano sulla musica popolare italiana, e uno di questi per esempio è che nel sud non ci fosse polifonia in Sicilia, al di là della polifonia delle confraternite. Intanto allora dalla Liguria, da cui appunto stiamo ascoltando Donna Lombarda. Ecco, questa è considerata come una delle più antiche canzoni italiane, si fa per documentazioni scritte, si fa risalire, mi sembra, Alberto verso il 500, se n'era occupato anche Toschi con la parte musicale, però come è noto può essere che sia stato fissato nella scrittura allora, invece era precedente, anche perché la storia del triangolo è una storia che tuttora dura. Allora passiamo dalla Liguria alla Sicilia con l'ascolto della Lamentazione per il Venerdì Santo. Ecco, questo è un canto di confraternita polivocale. Polivocale. Questa era la Lamentazione per il Venerdì Santo, in Sicilia ovviamente siamo. E per la Sardegna invece questo problema della rettifica di certe credenze, di certe convinzioni riguardo a una mancata polifonia ovviamente non esisteva. No, non esisteva, perché per la parte meridionale della Sardegna era testimoniato attraverso anche noi Gosos, i Gosos, sì, e altre canzoni, sì, no, e Muttus, e poi però no, ecco, poi per la Barbagia anche una cosa che si sapeva, ma che non è che fosse anche il Gavino Ledda, non è che avesse Gavino Ledda, mi scuserà del lapsus, ma Gavino Gabriel si sapeva che c'era, però non era distribuito in maniera con registrazione, e io che ho fatto il primo approdo nel 54, perché anche lì mi occupavo della musica per quel numero, anzi furono due numeri unici di nuovi argomenti sulla Barbagia. Intanto sotto fondo stiamo ascoltando, qua, qui siamo a Orgosolo, supernore, a Orgosolo. E ricordo in quel carnevale registrammo con Cagnetta, che è stato quello che ha condotto questa prima ricerca di antropologia culturale in Sardegna, e registrammo ore e ore di questi cori, e quindi avevamo un corpus di registrazione, cioè si sapeva, ma come al solito non era documentato. Entre la parte che Gavino Gabriel ne parla dei cori, anche Fara naturalmente, sì, ne parla, anzi ci sono 3-4 trascrizioni di Fara che sono attendibili tuttora, però non c'era l'immediatezza del documento, soltanto per chi le aveva sentiti. Sì. Vogliamo dare qualche precisazione per i nostri ascoltatori proprio su come sono organizzati questi cori, cioè inizia il tenore che è un saboghe. Sì. Poi c'è una mesa boghe, poi c'è bass, una contra e poi un bass. I bassi cioè cantano quattro parti. Poi ci sono esotipidi, sì, quello che canta la sì, questo per esempio gallurese, a tempio nella sì, gallura, c'è invece ancora una voce acuta. C'è una voce acuta. Sì. Questo... Ma credo che questo, oltre a questa, che è una polifonia che ha poi delle riscontranze in parte per esempio nella polifonia albanese, sì, in parte nel mare, insomma c'è un'area di riscontri di questa tecnica polifonica, e quello che qui, oltre all'intonazione, al timbro, al tipo di emissione di voce, all'iterazione ritmica, a queste strutture, mini strutture che poi si ripetono, che non... Naturalmente è una musica modale, non ha nessuna modulazione di tipo tonale, e questo apre, cioè pone questo interessante discorso nel rapporto col testo. Anzi, direi che è una delle cose per cui io stesso ho desiderato che ci fosse il professor Cirese, e infatti siamo arrivati ad affrontare finalmente questa tematica. Ecco, ci siamo spostati sulla Sardegna, e va ricordato appunto che il professor Cirese, con Nataletti nel 59, giusto professore? Ecco, svolse una serie di indagini. Ora, era necessaria per questo tipo di ricerca la presenza di due ottiche diverse che esaminassero la stessa materia, ossia il testo e la musica? Questo glielo chiedo, professore. Ma secondo me sì, perché io interessato al testo e analfamusico, naturalmente avevo bisogno del musicologo. Non so quanto il musicologo avesse bisogno di me, voglio dire, Nataletti era uomo così, così corposo, e poi soprattutto così innamorato della Sardegna. Il Centro Nazionale ha certo un bronzetto nuragico, sì, nella sua, sì, con le Launeddas. Sì. Diciamo decapitato. Così diciamo decapitato, insomma, ecco il problema dei diversi codici di recente Cirese ha pubblicato per Sellerio un importante lavoro, un omaggio dei suoi allievi di Cagliari di Siena. Ragioni metriche. Ecco, un concetto base forse di ragioni metriche è che le forme metriche possono essere assumibili innanzitutto in sé, cioè come forme che hanno strutture e storia, e in questa ottica andrebbe considerato forse un riaggregarsi agli studi demologici attuali, l'intero corpo delle indagini in materia di metrica popolare che vantano una certa storia e tradizione. Ecco, allora una prima domanda, professore, se è questo un po' il concetto base del suo libro. Ma tutto ciò deve essere considerato se ovviamente la metrica in sé viene giudicata di essere in grado di costituire una materia di interesse per gli studi demologici. È così? Sì, voglio dire, il primo aspetto di questa questione, che però qui entra soltanto per i rapporti con la musica e con Diego Carpitella, certamente, quindi slittiamo il più rapidamente possibile sulle caratteristiche generali del lavoro. La metrica è uno dei tratti culturali caratterizzanti di aree. Basterebbe dire che c'è in Friuli Villotis e sono di una certa forma metrica, che in Sardegna c'è Mutu e Mutetu. Naturalmente da studiare nella sua specificità, cioè non affogandola. Allora il problema è quello della specificità, e da allora è chiaro che si mette immediatamente in rapporto con la musica. Quando è metrica di versificazione di tradizione orale, la versificazione di tradizione orale c'è la poesia recitata, ma c'è soprattutto poesia cantata. Voglio dire che la poesia senza musica recitata e la musicalità solamente strumentale, dall'altro lato, sono diciamo marginali, mi pare, rispetto al grande corpo di produzione cantato. Espressiva, cioè quello cantato, parole e musica, insomma. Ecco, mi sembra che, anzi, nel suo testo viene senz'altro sviluppata questa tesi, cioè l'autonomia in qualche modo dei due codici, quindi del codice linguistico, del codice metrico in questo caso, il codice poetico testuale e della musica. Ecco, quello verbale appunto è quello musicale, cioè il problema del rapporto tra verso e musica esiste, ma in realtà quando non è la musica a dare la forma, questo rapporto si può ridurre ha un rapporto tra testo verbale che ha una sua forma e una esecuzione musicale che può riplasmare questa forma, e c'è stato questo diciamo più o meno occasionale rapporto, la forma verbale resta nella sua autonomia e può essere riutilizzata e riplasmata a piacimento. Ecco, credo che questo sia un po' il fulcro di tutto il suo lavoro. Però ha due facce, perché questo vale anche sull'altro versante, cioè a dire l'autonomia del metro, se posso parlarne tra virgolette, della musica, ma certo se ne può parlare, rispetto ad un testo che la musica, voglio dire, plasmerà, voglio dire, sbriciolerà, straccerà, prolungherà, raccorcerà a seconda delle sue esigenze. Toltogli le parole, la musica continua a mantenere la sua autonomia. Le parole, se avevano una loro forma, toltagli l'esecuzione musicale, quando è esecuzione, non quando è viceversa formazione. Io penso, e qui per i lamenti funebri appunto raccolti in quelle registrazioni di allora di Santa Cecilia, ma anche altre, quelle della Lapa, la rivista 53-54 che mio padre faceva di tradizioni popolari, e dico le lamentazioni funebri mulisane, che io qui avevo analizzato allora ma ho pensato di riprodurlo qui, sono inintelligibili senza il nastro, cioè le parole staccate dalla, come la dovrò chiamare, dall'andamento che è musicale e non è verbale, staccate da queste parole non hanno forma. Io e posso dire, sono 24 sillabe, un arco musicale copre 24 sillabe, un altro ne copre 7, un altro ne copre 12, cosa fai? Diremo che sono versi di 25 sillabe, no. Non hanno forma, sì, così come un grido di ventitore, e sottrattagli l'arco, virgolette, musicale su cui lui lo lancia, e dico quel grido di ventitore scritto sulla pagina non dice, è privo di forma, perché lì è la musica che dà la forma. Sì. Mentre invece ci sono altri casi, appunto era il caso di questo Fiore, nel quale ci sono due forme che si incontrano. Adesso lo esamineremo proprio in concreto questo caso. Allora questo era perché, per ritornare adesso anche alle, anche alle discussioni con Diego. Sì, perché non c'è un accordo totale su questo no, aspetto. No, forse no. Noi abbiamo avuto, ma sapete, ci conosciamo da tanto. Posso dire anche da tanto? Sì, certo. Posso dire? Sì, certo, diciamo. 38. No, dico, voglio dire, nel senso che probabilmente in questa foga, infatti io ho fatto anche una recensione di questo libro e lui giustamente, insomma, quando siamo sentiti per telefono, dico, hai scritto le ragioni antimetriche. No, il problema è che quello che diceva il professor Cirese è anche quella acutissima, le note più acutissime dei rapporti tra antropologia e musica, le dice Moss. In quel capitolo che forse ti ricorderai, le preghiere e i riti orali, in cui parla di questo proprio impossibilità, lì c'è proprio questo momento di fluvio musicale che, in cui le parole appunto non trovano senso se non sono, cantate, se non hanno la tessitura, la trama dei suoni, non è così. Quello che io è stato è anche motivo così di discussione, grazie a Dio si può fare ogni tanto, mi prende sempre un sacco di cautele, non si può niente, no. O perché uno deve fare una cosa, o perché forse chi lo sa che c'è di tipo accademico, no, cioè è il punto di nella metrica rientrano tanti livelli. Cioè il tipo di cose tipo preghiere dove senza musica le parole non hanno senso. Rientrano delle formalizzazioni scritte oppure anche orali che magari sono poi musicate ma non appartengono al genere, che nascono simultaneamente con la musica, e poi esistono delle trascrizioni dal canto che vengono trattati per dire Barbie o Santoli, vengono trattati come se fossero un testo scritto. Ecco, il momento più che altro è, io credo, e non c'è al di fuori veramente di Alberto che si sia occupato così cocciutamente, non c'è una tradizione di questo tipo che fa questi distinguo sottile tra questi livelli, che forse rientra anche in problemi di dialettologi e di glottologi, di cui io veramente non so la percentuale in cui si sono occupati di testi di tradizioni popolari. Vabbè, dialettologi ovviamente, ma forse da un punto di vista strettamente linguistico, non da un punto di vista demologico. Ecco, è la puntualizzazione di diversi strati dove c'è o la preghiera, dove le parole non si sostengono, o il lamento funebre, o le grida, e poi alcune formalizzazioni che nascono già a parole, perché se dovessimo fare una citazione di testo che viene soltanto recitato, quali diresti tu, per esempio? Testo che viene recitato, non prevalentemente cantato. Non lo so. Uno, sopra Dio non c'è nessuno. Due, il sole e la luna. Beh, voglio dire, sono testi piuttosto rari nella massa delle cose per le quali io mi sono occupato. Mi sono occupato. Però, diciamo, il punto, Diego, dopo 38 anni, diciamoci Diego, se no il professor Carpitella. No, perché, no, vabbè, per variare, anni, siccome la tradizione popolare... Va chiamato professor Circhetti. No, iterazione microvariante. La situazione che... Ha ragione, che cioè va affinato lo strumento. Sì. E quello che, voglio dire, io per la mia parte ho tentato di fare. Dicevo, con Diego... ma anche con Roberto Leidi, voglio dire, con altri che si sono occupati, una qualche discussione c'è stata, soprattutto nel momento nel quale la etnomusicologia, con diciamo l'appoggio, l'aiuto, mi ricorderò, di Peppino Bonomo, Giuseppe Bonomo, professore di storia delle tradizioni popolari a Palermo, a cui si deve se è entrata nel quadro delle discipline accademiche con la prima libera docenza bandita per richiesta appunto del professor Bonomo della Università di Palermo. E voglio dire, noi suggerimento che, di Cocchiara che poi di Cocchiara Bonomo, sì, fu. Certo, che Bonomo realizzò. Ora no, volevo dire, quindi in quel momento nel quale usciva da come diciamo, da una costretta clandestinità, insomma, no, o perlomeno non clandestina, ignorata, usciva, è chiaro che uscisse anche sfogando quel che bisognava sfogare nei confronti degli atteggiamenti che c'erano stati da una parte degli studiosi della parola, e cioè di ignoranza completa, sì. e di ritenere che diciamo il canto, non il testo, il canto popolare fosse spiegato tutto a partire dalle parole. Ora, il canto popolare è il testo della musica, e dunque se io spiego le parole, ho spiegato le parole e non il canto popolare, non so se... Così come un musicologo puro che si occupasse semplicemente della parte musicologica non avrebbe spiegato il canto popolare, avrebbe spiegato la musica del canto popolare. Ecco, allora, l'errore, diciamo così, filologico era non di occuparsi delle parole, ma di assumere che spiegate le parole si fosse spiegato il canto. No, né la musica da sola, né le parole da sole bastano per spiegare il fenomeno canto. Ma adesso qui quello che io appunto sostengo sulla strada che naturalmente ho imboccato anche perché ho discusso con lui e con altri, è si tratta di due codici, sì. Uno musicale ed uno verbale. Il canto è co-occorrenza dei due codici, i quali, ecco, vengono azzerati perché co-occorrono oppure no? La mia domanda, diciamo così, astratta, generale, è questa. Evidentemente si condizioneranno a vicenda in un qualche modo, anche se, giustamente, tu sottolinei la indifferenza della musica nei confronti delle parole. Sì, non in maniera assoluta. Sì, no, sto dicendo la relativa indifferenza. La relativa indifferenza, no? Sì, sì. Così come si potrebbe dire che la relativa indifferenza delle parole che uno canta nei confronti della musica dentro cui la cala. Ma è chiaro che dovendo co-occorrere, in qualche modo l'uno dovrà adattarsi all'altro. Il problema è, nel momento in cui li separiamo, quel che rimane sottratto uno dei due codici continua ad avere forma per conto proprio oppure no? Certo. Perché se perde la forma è evidente che io li posso studiare solo nella loro co-occorrenza, in cui uno è il plasmatore e l'altro è il plasmato. E se tolgo il plasmato mi rimane inintelligibile. Se viceversa, staccando le due metà della mela, ognuna delle due rimane con una sua autonomia, bene, allora non è che io avrò spiegato il canto spiegando una metà della mela, ma avrò spiegato quella metà della mela. La metà della mela in cui credo di avere un poco di competenza è la metà verbale. Quindi non le do la preminenza perché è più importante della musica, le do la preminenza perché non so la musica, insomma, e invece ho imparato a leggere e a scrivere, dunque a contare le sillabe, non a contare le note. Ecco. Allora questo era il fulcro della questione. Che io cercai di dire, e chiudo, ti ricordi, proprio al primo convegno di Fondazione degli Studi Etnomusicologici? Dicembre 73. 73 o 71? 73. 73, perché fu l'ultima volta anche che vidi Pasolini. 73. 73, vedi, pensavo 71. Scusami. No, volevo dire questa precisazione, nel senso che molte volte, se fosse soltanto studiare soltanto la musica senza le parole, beh, direi che no, non si può fare neanche questo. Certe volte i problemi della strofizzazione e della versificazione sono determinanti per capire la musica. Tant'è vero che certe prop fa un'affermazione molto acuta a questo, quando dice spesso nella musica c'è una strofizzazione latente, c'è una strofizzazione che viene dalle macro e microstrutture musicali, mentre certe volte la musica è come copertura e intonazione di un testo che è già formalizzato. Quindi è impossibile, cioè io quello che dico che è quasi discutibile se possa avvenire una separazione nella trattazione. Ecco, ma è proprio su questo, viceversa, che io dico, la mia immagine, no. Io qualche volta vedo i balletti in televisione, spengo l'audio, spengo l'audio. Cosa mi rimane? Un magma ed un caos? O mi rimane una sintassi? Una forma cinesica che in ogni caso ha una sua in ogni caso ha una sua. Sì. Dopodiché io ho perso il balletto, perché è chiaro che il balletto era musica e movimento, però quel che mi è rimasto continua ad essere intelligibile perché ha una sua struttura. Allora, dico, io mi azzardo a pensare se non ci sia, voglio dire, al fondo una spinta ad una metrica, adesso con tutte lettere maiuscole, in cui non siano più né le parole, né le note, né i movimenti della danza, ma siano elementi qualsiasi, i quali trovano una loro sintassi, che siano righelli di, ecco, questi che vediamo su questa parete, addobbo interno, o architettonici, o viceversa cinesici, o viceversa musicali, o viceversa verbali. L'azzardo, e lì ho messo tra parentesi armonia delle sfere, ma voglio dire che al fondo abbiamo questo come problema, e cioè una sintassi dei, li chiamerò genericamente ritmi, per cui io dirò che infatti c'è rima anche tra quelle due cose, pur sostenendo io che la rima è solamente uditiva nel nostro senso, ma lì ad un certo momento questi possono far rima perché hanno una loro rispondenza. Allora una sintassi delle sintassi dei codici, che è forse, voglio dire, non lo so, forse siamo alla soglia. Quindi è solo lì, in questa ipotetica armonia delle sfere, che si integrerebbero a livello sintattico i vari campi specifici di indagine. Sì, cioè, voglio dire che secondo me gli sbocchi oramai inevitabili dei nostri studi sono assolutamente filosofici. Vogliamo fare, professore, un esempio concreto, per avviarci anche ormai a una chiusura di questo lungo incontro col professor Carpitella. Sì, io avevo avevo fatto un esempio che era, appunto, voglio dire, che ci riannoda, perché è centro di musica popolare, è Giorgio Nataletti, Antonio Sanna, Paolo Kelchi, 1959, e devo dire anche, c'era anche la moglie di Giorgio Nataletti e c'era anche Liliana Serafini. In questo 1959 a Fonni, in Barbagia, dove forse tra tutti il più emozionante dei canti complessivi, cioè parole e parole e musica, che era una bella espressione anche se svilita, parole e musica, diciamo di tutta la mia attività. E il punto è che il testo dice: i sardi mi perdoneranno per come pronuncio, quando mi aso a Francesca, cioè quando mi bacio Francesca, issa posentu a sacua, nella stanza di nascosto, fiore de mendula fresca, fiore di mandorla fresca, mi pare de sa bocca sua. Sono quattro versi perfettamente organizzati: quando mi asa Francesca, issa posentu a sacua, fiore de mendula fresca, mi pare de sa bocca sua. I versi quando mi asa Francesca rimano con lo schema A, B, A, B, A, B, certo. Sono esattamente settenari. Quando vengono cantati, se abbiamo la possibilità di sentire adesso quella registrazione, sì. Ecco, io ho cercato di trascriverli dal nastro che avevo di copia di questa, e viene fuori: quando mi asa Francesca, i s'apposento a sa cua, cioè quando mi bacio Francesca dentro la stanza di nascosto, fiore, fiore, fiore, fiore de mendula fresca, è venuto adesso il terzo verso, e adesso per venire il quarto, mi paressa bocca sua fiore, mi paressa, fiore, fio, e fiore de mendula fresca, mi pare, quando mi asa a Francesca, i s'apposento a sa cua. Quando io trascrivo le parole dal nastro del canto, dal testimone dell'evento, e ad un certo momento questo che ho qui è informe. Questo è informe, attenzione, ma è diventato forma dentro la musica, no? È diventato forma, e se lo sentiamo, sentiremo che forma. Allora, ascoltiamo un momento la versione musicale. Si potrebbe, e poi dopo il professor Carpitella si commenterà. Quando mi aso a Francesca, in Savasento a Sacua, fiore, fiore, fiore, fiore, le mendula fresca, Straordinario, veramente, sì, questo ascolto, sì, emozionante. Adesso questa... Musicalmente proprio emozionante. Sì, certo, non posso mettermelo a predicare perché c'è l'acqua al mio mulino. No, un voglio dire una prima cosa. Ma... No, voglio dire prima che io penso che se uno musicologo, un etnomusicologo, facesse l'analisi di un documento cantato e non tenesse conto delle parole alla pari o com'è, io non troverei un'analisi esatta. Sì. Voglio dire, non lo troverei. Cioè, se un corso è cantato, lui deve tener conto, non so se del supporto o di quello che viene supportato, in misura valida. La seconda cosa, e questa è interessante, ma è che rimane da chiedersi, la so che la cosa può sembrare così un po' sommariamente aggressiva, cioè rimane da chiedersi Se la forma reale del canto nelle parole è qui, la seconda, non la prima, è che la prima sia un'incorniciatura colta per tirar fuori la quartina. Lo so, va bene. Guarda, io qui dico che non accetterei volentieri, sì, una origine di tutte le forme metriche, comprese quelle architettoniche, posso che se ne possa parlare, dalla musica. Ma perché sostengo qui in questo libro che tutta la metrica, anche quella cultissima di Carducci, è orale, anche se il veicolo di comunicazione è scritto, perché lui le rime le ha dovute sentire, sia pure con l'orecchio interiore, dentro, e si è rivolto al mio orecchio tramite l'occhio, perché se io non ho orecchio per sentirlo. Quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Cioè, l'ipotesi che sia la seconda... No, ma che abbia generato la forma della quartina, la quale poi si è costruita autonomamente. Sì. No, che... Guarda, c'è scritto, accetterei, non trovo adesso la pagina, sì, te lo dico, no, accetterei una origine, una origine musicale, cioè vorrei dire, una origine sonora, per ricomprenderci dentro, assieme al ritmare interiore e al ritmare esterno, voglio dire, le nostre pulsazioni e i cicli solari. Qui sto dicendo un'altra cosa, io trovo un documento come questo, quando io gli sottraggo la musica, il documento mi si presenta, le parole mi si presentano così. È chiaro che non hanno forma metrica. Però quando io chiedo al cantore il testo che lui ha cantato, lui me lo recita tranquillissimamente, in ottonari, avevo detto settenari prima, equivocando. O non se lo ricorda. No, va bene, qualche volta non se lo ricorda. Sì, ma questo riguarda l'esecuzione. Io in questo momento mi sto occupando, cerco di occuparmi, del di che cosa le cose sono fatte. Ora, i testi verbali sono fatti, quelli metricamente organizzati, di oralità interna, io la chiamo, e cioè dire uno deve aver dato a se stesso le rime, che poi può essere veicolato da una oralità esterna oppure anche dalla scrittura. Ma anche se scritte non perdono la oralità interna, tant'è vero che andiamo a capo, mettiamo le dieresi, eccetera, abbiamo... dolce colore d'oriental, zaffiro, quando si dice zaffiro, insomma, no, voglio dire, abbiamo queste... nella scrittura uno ci deve mettere l'accento oppure deve conoscere la metrica per poterlo leggere adeguatamente. Dicevo allora, c'è una oralità interna che non è uccisa da un veicolo esterno scritto, e di quella mi voglio occupare. Questa oralità interna è fatta dalla sonorità delle parole. Le parole adesso però hanno due sonorità diverse. Hanno una sonorità che è quella che è il significante di un significato, per cui se dico pane e dico cane cambia il significato. Però poi ne hanno anche un'altra, quella per la quale io posso dire Giorgio e Giorgio, non ho cambiato il significato, ma come capisce do un'aria, uno va a Siena e dice lettere, ti rispondono a lettere, ecco, come è chiaro, e ti dà per esempio la collocazione socioculturale di un certo tipo di pronuncia, oppure quello che ti fa dire Gesù, Giuseppe e Maria, invece di dire Gesù, Maria, Giuseppe, voglio dire quello per il quale io mi affido ad una fascia di sonorità che non è più la sonorità linguistica, ma è quella che io ho cercato di chiamare la sonorità paramusicale, quella per cui le parole suonano e io dico per iscritto e non per scritto, perché suona meglio. Questa fascia paramusicale, e chiudo, è la fascia interessata dalla metrica. Ed è paramusicale. Perché non dico che è musicale? Perché quella musicale, variando, varia il significato, mentre quella paramusicale, se io cambio troppo la sonorità della parola, mi cambia senso. Sì. No, il problema, no, questa questione che uno dei punti centrali è quello, se di problematizzare in maniera diversa la strofizzazione e la versificazione delle parole trascritte della tradizione cantata. Pone un problema di versificazione e strofizzazione diversa dalla trascrizione del testo. Allora, su questo problema, su questo quesito che ha lanciato il professor Carpitella, come appendice al quesito più grande che abbiamo cercato del quale abbiamo cercato una soluzione, troppo pretenzioso ovviamente, non ci può essere. Abbiamo discusso col professor Cirese, cioè dell'autonomia, il professor Carpitella, dell'autonomia di due codici, quello verbale e quello musicale. Questa prima parte di antologia dedicata a professor Carpitella si conclude qui, naturalmente antologia prosegue. Io voglio ringraziare il professor Cirese per essere intervenuto, il professor Carpitella, con il quale ovviamente, al quale do appuntamento per la prossima settimana. Alcune note della nostra sigla e antologia prosegue con la seconda parte. Servono in questo caso semplicemente, come ha detto Emanuele Papalardo poco fa, per chiudere la prima fascia del nostro programma e per aprire la seconda. Siamo sempre in realtà nella prima lunga parte di antologia, andremo infatti avanti fino alle 18:45, ma è il momento di affacciarci sullo spazio che antologia riserva ormai da qualche settimana ai grandi interpreti del teatro italiano del Novecento. Quest'oggi l'omaggio è dedicato a Elena Zareschi. Per ricordarla abbiamo scelto una trasposizione radiofonica di una commedia di Gabriele D'Annunzio, La fiaccola sotto il moggio, in una riduzione, in un adattamento radiofonico in 30 minuti. La registrazione è stata effettuata il 22-24 gennaio del 1973 ed è preceduta da un dialogo tra la stessa Elena Zareschi e il regista e adattatore Leonardo Bragaglia. Ascoltiamolo e noi ci risentiremo tra una trentina di minuti. La mia prima interpretazione del personaggio di Gigliola nella Fiaccola d'Annunziana risale al 1944 a Venezia, Teatro Goldoni, con la mirabile direzione di Memo Benassi. Che Elena Zareschi considera il suo grande maestro, vero Elena? Sì, veramente un grande maestro. Benassi mi avvertì, dopo alcune prove, vedendomi innamorata del personaggio di Gigliola: attenta Elena, perché D'Annunzio ti piace troppo. Vorrei chiederti a questo punto, era severo Benassi alle prove? Sì, piuttosto severo, caro Bragaglia. Ma poi, dopo la prova, veniva in camerino con dei fiori, della frutta. Ricordo che alla prova generale, dopo avermi maltrattata e fatta piangere,